nessuno? Hola, 1, 2, 3. C'è nessuno, c'è qualcuno? Boom boom, zoc zoc. Chi è Ama? Eh beh, l'open room. Eh beh, Daniele, lo immaginavo che... Vero, al bippi? Sì, andando al bippi. E allora? Ti tenei conto, Cascia. Lei, che ho acceso adesso a vedere che c'era? No, io ci ho acceso da una poco, ma non è capito nessuno. Oh, si stanno battendo fiacca. Sono tutti quanti. Approvodato, il sole che c'è. Tutti nascosti sono già, tutti nascosti. Invece voi mi avete dato la pennichella che mi stavo facendo dopo un pranzo. Ohia. E prima sono uscito, poi sono tornato a casa, poi sono tornato a uscire, lui ha detto non finisce niente. Guarda, c'è sentito? No, ho appena acceso. Ai, magari no, puttana. Sarà la pennichella anche no. Tutti a lincionare sul divano. E io mi sono messo sul divano, poi non ero contento, non sono andato nel letto regrato. Che nel divano non viene bene a girarsi, capito? Invece nel letto regrato mi fa spalancare a te. No, a me piace il divanetto. E anche io ce l'ho divano, bene. Però... c'ho anche una sedia, quella... la poltrona, quella che si allunga. Che si allunga anche sotto le gambe e si riabbassa la sedia, la poltrona si abbassa e ti puoi quasi sdraiare. No, quello per me, il divanetto, sì, quello dove puzzi, mi metto lì e faccio la mia oretta di pennichella, oggi anche io l'ho fatto. Ma sai cos'è? Che poi c'è il taglio, quello che me ne con in casa per anche lì e comincia a rompere, tutta la pulita, faccio spazio lui, mi tocco di avanti. Cava, cava, è una scena, zo. E tu sei costretto a farti stretto stretto per fare il posto a lui. E io ne ho messo una coperta sopra il divano, se arrivo lui. E lui può fare come crede. Se vuole venire, viene. Se non vuole venire, sta in terra. Non ce n'è problemi. Certo c'è il tappeto persiano, si può venire. Cazzo, cura reddo. Oppure c'ha tutta la sua cuccia. Ma quella la usa poco, ogni giorno magari, dopo che mangia, così si sdraia. La sua cuccetta con materasso, eccetera, eccetera. Sì. Aspetta, due pezzi, vedi, vedi. Viziato l'hai già. Ah, io gli animali hanno trattato bene o... meglio non ho aperto, secondo me è così. Oggi per dire sono andato all'ospedale, sono entrato col parcheggio che c'è dell'ospedale, tanto non si trova un parcheggio, non si è sempre obbligato a pagare. Sono andato col parcheggio, poi quando me ne stavo per andare, sento questo cane che mugugnava, che piangeva. Guardo che era chiuso dentro la macchina. E praticamente lo volevo dire a quello del parcheggio, però non c'era e non ho saputo cosa fare. E non c'è mamma che pulisce le gambe di siccome che l'ha messo all'ombra, qui ha girato il sole ed è toccava proprio il sole sulla mano. Poveretto, ma basta chiamare i vigili. Poi, ma a capo guarda, secondo te quando fa una cosa del genere, io il cane se me lo porto appresso pure lo faccio scendere con me. Sempre so che devo andare in un posto per non postare il cane, non lo porto, punto. E infatti, oioia, per carità, adesso iniziano a chiuderli, a farli, a abbandonarli. Poi io ho rinunciato a tante cose per fare viaggi, questo e quell'altro, però siccome li voglio bene, no? Non lo voglio così. Peccato che le ho tutte vendute, le 5 che sono nate. Tutte nate le hai già? A una persona, per quanto riguarda. Ah, ma tu è? Ho fatto strike questa volta. E uno mi ha detto quando nascono che vanno per le altre. E siccome ci sono in città, adesso tra poco dovrà farlo uscire. Ti hai tenuto solamente la coppia, così è? No, ne ho sette. Ne ho sette, no, la coppia. Ho praticamente due patrici e gli altri sono tutti maschi. Che cavolo! Ma le patrici lavorano forte. Cava, cava. Va bene. Non c'è giù fuori col cane, no? No, il cane stamattina quando le stavo portando via per darle, saltavano su con l'amico mio che ce l'hanno per mano, perché io ho il bastone che mi viene male a tenere. E ho chiamato un amico, mi ha aiutato. E quel mio amico ce l'aveva la scatola in mano, e stesso mi saltava sopra perché non voleva portarle in giro. Cesso, si era affezionato. Ehi, Ciccio, sulla gabbia, alleluia. Stai sempre facendo la guardia. Meglio, meglio. Se per dire loro si muovono di scatto. Allora, no, stamattina ti ho fatto un vento di marcia, sai. L'ho portato giù a fare un po' di finocchietti per le scatte, di modo che quando porta lui faccia anche un po' di finocchietti. Se lo faccio, faccio un po' di dietro per le scatte, no? Le vedo perché mi piace un po', oltre a quello che dico, però la roba naturale mi piace di più. E fatto sta che mentre stavo con le finocchietti, sai, a mettere la musica e poi lo tirava di colpo indietro. E che cavolo c'è? Ho preso con la stampetta, con la carta e c'era un po' di marcia. Vivo, sì. Sì, vivo, si è chiuso, proprio quando io ho alzato la si è chiuso a riccio, proprio come si dice. L'anno scorso, no, 2 anni fa ne hanno trovato 7, l'anno scorso ne ha trovato uno solo. 2 anni fa ne hanno trovato 7 in una settimana, di qua, ne ho trovato 2 in un giorno. Cavolo, ma ormai già non si punge, sennò guai. Oh, guarda, io ho provato a prendere le mani, anche prendendo molto leggermente, senza spingerlo, si punge in una maniera maledetta. Perché tu lo sai cosa fa? Dai colpi, rischi di mancia, tutto per pungere, dai colpi, dai. Per quello che torna dietro con il muso, capito? Come lo vede che va a dare il colpo, non si scappa per dietro. Sì, sul poveretto, via. Si punge. E uno 2 anni fa, quello grande che ha preso, dopo l'attaccaggio che ha fatto la fotografia, che ha fatto il granulare, ce l'ho, ma c'è il granulare. Non avete neanche uno di quelli già? No, c'ha le piluche. Mio padre diceva sempre di non prenderli perché c'ha le piluche addosso. E quando li prendeva nel continente, cosa dice che li bruciava, per bruciare anche i piluche, li usciava. Poi li grattavano come si fa con il maiale. Che cacchio, questo non lo sapevo. Allora li mettevano in mezzo al fuoco, li grattavano con un bastone, li grattavano, poi li aprivano, li mettevano a serenare una notte. Sono buoni da mangiare, capito? Solo vogliono serenare, se no devi tagliare per la biscica, se no ti lascia un mese senza bisciare. Quello lo so che devi smazzarli bene, perché c'è una sostanza che contengo che fa male. La vescica, praticamente devi tagliare la pelle di quello che non si apre, se si spalma nella carne è meglio non mangiare. E quella cosa ti fa già? Se la mangi? Te l'ho detto, ti impedisce di farla. Che cacchio, devi andare dall'urologo, veloce. Ti fa bene un blocco. Sono cose che bisogna sapere, che c'è tu, infatti, mi mettono a serenare, li aprono, li tagliano tutta la biscica, ma la tagliano bene in là, di modo che non si apra, capito? E la buttano via, tutta la biscica. Ma mangiano bene, mangiano roba tranquilla, non è che mangiano porcherie, mangiano frutta, qualche insetto magari. Cala, cala. Va bene, buona sapere, se non hai mai mangiato di questa roba, vedo sì, che non l'avevo assaggiato. Ma si sta già a fare niente, ma sai che sono frutti? Pure. E allora, io infatti gli ho fatto la fotografia, poi l'ho liberato, ma il 3 centimetri non sono portato anche la casa qua, e non risolvo lo gioco a mantenere. Sto provando a fare una foto e poi lo muovo, e infatti così ho fatto. Andare, cava, cava. No, questo era una protezione, lo sapevo, vedi. Pensavo che fossero così allo stato brado, diciamo. Sì, sono protetti perché sono la media di estinzione, sia qui delle tartarughe. Delle tartarughe sì. che quelle devi censire alla forestale se ce li hai. Non esiste più quella legge. Allora Marco, ne ho trovato una e l'ho portata a casa, e Marco la voleva, e ha detto: figlio mio, non fatevele perché bisogna denunciarle. E lui mi ha detto: la denunciamo. Però se ne mangiate, cazzo. Abbiamo chiamato la forestale e gli ho detto: guarda, migliore mi se ne mangiate, così crunch. Sì, ma lo faccio. E Marco gli ha detto: ascolti, abbiamo trovato la tartaruga presa la strada, possiamo venire a denunciarla perché noi la dovremmo tenere a casa. No, non esiste più quella legge, le tartarughe vanno lasciate dove si trovano. E lui gli ha detto: sì, ma è nel mezzo della strada, l'avrebbero schiacciata. E dice: sì, vabbè, va almeno metterla nel frigido, ma la mettiamo, non basta, la mettete. E io l'avevo trovata sulla bambina, di sai cosa stavo facendo? Quando c'erano... stava facendo la cacca. Quella struttura di cemento, dai, per far piccato, che ha dei buchi per passare l'acqua quando piove. Stavo cercando di entrare in quel buco, ma non ce la faceva, cazzo, non ci passava, e lei si stava a spingere, capito? Io l'ho vista, mi sono fermato, l'ho preso. E l'ho riportata lì quella donna, perché mi hanno detto che non fa manco denunciato, adesso non si può tutto tenere. Allora, addirittura. Va bene, va bene. Aspetta un secondo già. Vai, vai. Anche se sono di gente che c'è nel cortile, le cuffie. Gianni, Mara, chi è? Andiamo con bene. No, scusate, recuperando il telefono, che stava... stanno arrivando messaggi. E c'avevo qua giù. Adesso me l'ho portato qua da me a vedere chi era. Ah, ma invece di roba, le fanno sempre quelli che volano, le cose, il telefono. Ah, ma non hanno compreso che a certe ore non possono telefonare, che non sta riposando, non è molto difficile. Cavolo, è una scena, Gio. Una scena. Oh, Iuia. Ah, che bella scena, ma sei. Queste compagnie qua a destra, a sinistra, ti chiamano, ti tartassano. Ma io se devo fare una cosa, la decido io, non è che non devo proporre loro. Questo è l'acqua, la cogliono, per purificare l'acqua, ma l'acqua di sasso non la pulisci, che bisogna stare con gli cimentali pesanti, che non ci riesce neanche il tutto a purificare. Ma... te ne fanno tante, una volta mi stavano assillando, cavolo, prendi, fai, di sua smonta, visti qua dell'acqua. Adottano c'era un consulente vicino alla mia zona, sì, ha detto, guardami Rugabu, tu il consulente della tua cagata dei vendendi. Tutto gratis, tutto gratis, però devi dare, mi sembra, non so quanto all'anno. All'anno era più gratis. E infatti ce l'ha mandati subito. Ma non so se ce l'aveva messa, però non aveva il coraggio di berla lo stesso, non sai, se l'ho messa di bianco, che te l'ha fatta l'acqua. Cosa già? Mio socio se l'aveva messa a casa per non comprare l'acqua, dice che c'è questa apparecchiatura che te la pulisce l'acqua, no? C'ha dei filtri, praticamente tutti dei metalli pesanti, tanta sta roba. Però l'ha messa e poi non aveva il coraggio di berla, e si ridagava, quindi c'è stato inutile, non ha il coraggio di usarla lo stesso. Ma per carità, ma guarda quando smonti quella specie di filtrino là sotto il rubinetto, tutta la sabbia che si forma, i granellini di terriccio che ci sono. Ehi, sì, è vero. E il fatto che lo lì da pulito ogni tanto che si bello, Mughigno. Attento mio hermano della Sardegna, la Sardegna, adelante per un comprendito. Attento l'amico della Sardegna, se mi intende. Ti intendo. Molto bene, mio hermano. Signorito per me. Come ti chiamas? Gianni, doppio rum. Io sono Emanuele, dalla Spagna. Ciao Emanuele, ben sentito, qual è la tua città? Barcellona della Spagna. Tu dove stai? Io sono con un amico Daniele, aspetta che te lo mando avanti. Daniele, avanti. per l'amico di Barcellona, va? L'amico di via Barcellona, Sì, ma non avevo compreso che, care, sempre lo stesso, ecco lo dico. Hola, hola, Gianni. Fasi, vai, ti fanto, ti ha fatto lo scherzo telefonico, sgamato subito. Attento, Glodino, ci sei. Dai, che c'è sceso, quanto di piedi c'è sceso. E beh, Gianni, doppio rumo. A te te metto la c'ho l'antenna, Daniele. Se vendi una Borutto. Dani, c'è tutto l'aria, a Crodino, là. Ma l'antenna grande stai usando a tu? Oh, solo c'ho l'antenna troccata e non si sente. Se metto l'antenna grande ti schiaccio. Boh, non lo so, perché qua arrivano tutti allo stesso segnale, con questo smitter. Quindi non lo so. Vabbè, con me puoi testare il fondo scala e basta, scusa, siamo a 2 metri. Oggi non ci appentiamo nell'ottavo, Antonio, allora giocare a aprile si sarà lo smitter. Va bene, continuate che io sto a scortare. Perché non attacchi questa antenna grande? Prolungare il filo e fare il buco, già lo faccio il giorno. Yes, una scena, sì. Attento, mia romana, della speciale operatore, già diventato della diversa Savi, che ti fa bene. Questo è un incrocio tra lo spagnolo e francese. Un mix! La stazione, un amico che utilizza la Sardegna che ti fa bene, sì, è la stazione del capomeo della diversa Savi. Antoine, ci mi qui, Rodino. Sparito è già. Adesso vediamo all'altro Gianni, un prefetta, cosa sta combinando. Aspetta già, sto dando una cosa al piccolino, aspetta. Quante ne c'ha adesso? Quasi 7 al prossimo anno. 7? Ci ha lasciato tutte. Sembra che quando ci siamo visti era incinta. Anche neonato l'ho vista a Pantamona una volta, che la portai dei carabinieri, non te lo ricordi che c'era che non l'ho potuto. L'hai rivista, era già nato quando ci siamo visti. Era piccolo, era proprio piccolino. Pensa a due quanto tempo è passato. Ieri la sette ho conosciuto. Aspetta un secondo già, che dove sto? Cosa sono? Mi assilla. Gianni! Oh! Mi sta volando questo cavolo di elicottero! Ma quelli che volano? Eia! Ancora esistono, io e Luca me eravamo appassionati, Luca Manicoli, andavamo anche a volare con l'elicottero, poi si è distrutto tutto, più basta. Di quelli a batteria! Che volano, ma sembrano dei cespugliatori, sembra. Come quelli che c'è un buco, però non durano molto, carica, durano troppo poco. Ci possono essere le batterie più resistenti al volo, durano una mezz'oretta pure, ci sciarano. Quello è già, dura poco. Ma adesso questo è da un po' che non l'ho messo a caricare. Era sempre spento. Eppure sta durando, Spero che si scarichi subito. Noi lo so dove andavamo, comunque siamo andati lì. E lì stavamo osservando che ci sono quel parco grande. Siamo andati lì a farlo volare. E a volava già, io non ho avuto il coraggio di portarlo oltre il cortile di casa. Sì, che vola, però te l'ho detto, quella prerogativa che praticamente la batteria si scarica subito. Una volta ne ho comprato uno grande, era la busta dei carabinieri, tu devi vedere quanto era bello. Grande però, non di quelli piccoli, di quelli grandi, sono andato al quadrato e ha detto adesso lo innalzo. Solo che lì c'è troppo l'asfalto duro, cazzo, non ci vuole un prato, perché come attiro poi, cazzo rimane magari, riesce a salvare il corpo, invece c'è l'asfalto. Beh, l'ho fatto volare in alto, cazzo, si vedeva a piccolo, c'è un taglio che fermo a guardare, appena è comparato la vita, cazzo, ha perso il contatto radio perché funzionano con la frequenza, no? Ha preso il contatto radio perché ha tranquillato se fa da piccolo, sono riuscito a parlare, già fatto quelli qui. Sì, peccato. peccato. Poi sono stesso, ogni tanto riesce a governarlo, ogni tanto no, buh, se ne va per i fatti suoi. No, poi l'ho fatto andare troppo in alto, ho perso il contatto con l'antenna del telecomando e dell'elicottero. Adesso per dire, con gli altri, quindi con quattro lini, che non li discuti, come si chiamano, vabbè, non mi viene il nome. Quelli lì, per dire, ritornano da soli, non c'è bisogno di più di comando e cose, ritornano da dove sono a terra, da dove sono arrivati. Invece con l'elicottero è più difficile. L'ho portato a Porto Tosi, che è per il comune, l'ho fatto volare, per Tahiti a Baiteco. E a Porto Tosi mi sono divertito, ho fatto volare anche in piazza Petrarca, lì c'è uno spiazzo grande grande, l'ho fatto volare lì. Un casino è già, è un casino. Perché il problema è sempre come non ve lo porti come lui a terra. Se sennò veramente si sfracellano là. Questo è bellino, è piccolino. Però è un peccato che si rovini. Guarda, io lo controllavo bene. Io li controllavo bene, però c'erano dei momenti che si sbagliava le affitto senza tutti. Non prendeva i comandi, non veniva i comandi, perché con comando dovrebbe andare avanti e indietro come collata per farla ferrare, in modo che atterri omogeneamente, non di colpo ma piano piano, capito? In casa, lui! L'ombra di cosa sfasciata, si spazia per voi, lui! No, questo ho provato a farlo volare, qua c'è il suo palco, fallo volare ci scende a picco. A picco? Non deve scendere a picco, vabbè, se tu lo sembra manovrare non scende a picco. Deve scendere omogeneamente, piano piano. No, non ce la fa, vabbè che non c'è spazio già. Quindi è logico che lui ci scende. Ci vuole spazio grande, un prato. E fallo girare, no troppo in alto però alla giusta altezza. E lo metto dove puoi farlo, al parco di Monserrato fai. Qui c'è l'erba, tranquillo, lo fai scendere, non andare dove ci sono le tartarughe perché c'è se fa la rileva. E che non ci sia nessuno possibilmente, se no guai. No, ma sai che ho visto gente che si fa i tipi, si mette un asciugamano, si prendono il sole, la gatta e cose. Sono andato a fare un po' di fotografie con un'amica cosa. E c'era un po' di gente, coppiette, sdraiate nell'erba. Già lo so, già. Già li ho visti anch'io. Adesso è il periodo, adesso come fanno le tirighette al sole. Vanno lì con la scusa di studiare, che poi non studiano un cacchio e si ammacciano. C'era la laurea in cultura una volta. Io ho detto, come ci metto faccio fotografia? Ci mettevo la mica mia da parte e dietro risultava quella lì con scuro, capito? Stiamo fanno le cose, raga. Sono cose che trucchi del mestiere. E adesso l'ho regalata a mia figlia, una macchina fotografica. Bella, della Canon, professionale, con qua. Per la laurea ve l'ho regalata, perché si è laureata per la seconda volta. Beata lei! Che ha avuto tutta questa pazienza e voglia. Vabbè, ha preso la laurea, ha fatto la laurea a Trini e poi ha fatto la specialistica. 2 anni di specialistica più 3 anni di laurea. E adesso può fare la direttrice di carcere, direttrice di comunità, eccetera, eccetera. Buono, buono. Almeno c'è una prospettiva di lavoro, no? Prospettiva, lì a Bologna sta già lavorando una comunità dove ci sono ragazzi armati con bambini che li vogliono prendere gli assistenti sociali perché hanno condizioni familiari strane, lavorare. Ehi, aspetta un secondo già, che devo fare una chiamata. Parla. A posto, fatto, non risponde nessuno, risolto. Stamattina ho visto la pizza di coppia, ho detto, ma vuoi vedere che c'è Daniele, invece non è. Che macchina è? La grande o la piccola già? E di nome, quella dove c'è scritto dietro, cosa stai aspettando, venire da noi a fare il volontario, eccetera, eccetera. Allora è la grande. Quella piena. Ma non c'è, tu guardate la cina. L'ho trovata lì, dove c'è il centro diabetico là. Io ero di clinica oggi. A San Cobrino. E anche quella lì, la clinica in San Pietro era. Allora ero lì, alla macchina mia. Io adesso sono lì, il centro diabetico l'hanno trasferito al primo piano lì adesso. Io non so, al posto di cardiologia l'hanno messo. E a te l'ho più visto, mi sto già a te. E a che ora già? Allora, sono state penso le 11. Oh, strano. Non so, ma era l'altro mio collega. Forse è stato l'altro mio collega, non ne sono sicuro. Perché l'altro giorno lì? Magari da un'altra parte prendendo un fuggi, roba del genere, magari c'era una dimissione, magari stiamo facendo il fuggio, non lo so, perché io mi sono sempre visto due per fare. Cavagà, ma siamo imboscato da qualche parte io. E allora, con qualche carmiera? Ah, è qui che ho conosciuto. E a chi hai conosciuto? Allora, ero con un cane, qui si è avvicinata questa signora, c'era cioè, il cane, stavo parlando e cose. All'inizio il telefono stava ringhiando, poi hanno fatto amicizia e adesso mi sei giocare, stavo parlando e cose. E mia figlia c'è il negozio di Anosseto, il negozio di pane, non mi la chiede. La mamma è Antonella era. E allora? Io, la sempre in zona abita già. Sì, ma ne ha buttato la porta, lo sai. Cosa? Via? Allora, sono andato da Budai a comprare. E è uscita questa nonna, è stata questa nonna da Budai e ha detto, chi è quella moto? Io ho detto la mia, perché? Adesso mi giro e vedo la moto in terra, me ne ha buttato la moto facendo retromarcia. E me l'ha detto quanta graffiata di latte, forse. E vabbè, mi ha detto, guardi, che faccio l'assicurazione, ma forse questi graffi c'erano da prima, ma l'ha trovato un po' di scuse. Io gli ho preso il numero di tasca, sono andato alla mia assicurazione, ho fatto la denuncia. E poi lui ha detto che non è vero, che mi ha toccato a destra, che mi ha toccato a sinistra invece che a destra, insomma, stavo facendo un po' di studi. Alla fine io mi sono come scatola, gli ho telefonato e ho detto che stavo lavorando all'avvocato. Di prepararsi perché ci aveva qualche testimone. E mi ha telefonato Antonella a casa e mi ha detto, mica mamma già, non fare nessuna denuncia, che già ti paga, già la convinco io. E non sai come è fatta lei, e io non lo so, non la conosco, però. E glielo ricordate, non sai chi sono io, non se lo ricordate più quando ti toccato la moto, e ma ormai sono cose passate, invece non fa male. Cava, io. E va bene, lei non sta più lavorando, mi sa, la mamma. No, era messa bene, io mi ricordo che la volta mi ha toccato la moto. Avevo un espace, quello della Renault insomma, estensi come si chiama. Tutto grazie fasciato, cose tutto con ginocchio. E lei l'ha messa un po' male anche come la vestita da Chantone, invece ieri era tutta benvenuta, tutta bella tirata. Non lo so, non ha cambiato stile di vita. Io sapevo che non stava facendo niente, buon per lei allora. Buon per lei, cava. Io sapevo, lei mi aveva detto che era governante, no. Vagante, non governante, vagante. Era vagante da degli anziani, mi sembra, boh. Non so, non mi ricordo neanche dove. Però poi aveva mollato, avevamo andato via, erano morti, non so che fine avevano fatto questi qua. Vabbè, stava facendo la fuma comunque, e ha trovato quello che si faceva mettere di sopra. E vabbè, mi ha detto la situazione, infatti la situazione quando ho finito mi ha fatto la perizia, e mi ha detto, la signora ha detto che però la moto se lo fece a destra non a sinistra, ha detto bene, ha detto non c'è un bravo che ha detto a sinistra, che ha detto come fai se si lo fece a destra, quando ho detto che stava in provaccia, con la moto a terra c'era una facciata, ha visto tutto, detto, se gli serve, ha detto che praticamente non solo che l'ha toccata, poi ha continuato ad andare dietro, la moto l'ha fatta strisciare in terra, capito? Allucinante, se non ce l'avrà ancora quella macchina già, forse l'ha cambiata. No, ho portato la pelle con la macchina, sta tanta... Comunque ancora la so che sta lavorando bene, già lo so. Già lo so. Ha trovato veramente il lavoro, e l'ha fatto poco di lavoro, l'ha fatto anche da lui, lo sai. Già me lo ricordo, per un periodo avevo lavorato lì. Poi in piazza Tora, per terra, non ne faceva mai, sta pensando ma qua. Vabbè, noia. Quando ci vediamo, già lo sai che è sposata, sì. No, non lo so, non lo conosco. Cava, già, quando te lo dico già lo sai chi è. Ah, facci via. No, zero. E comunque ho visto che mi ha passato tranquilla, sempre sorridente, adesso tranquilla. Io ho un paio di volte l'ho vista il caroseno, mi ha baciato, tutto qua. Ma la ragazza sembra solare, dai. Cava, è che non c'ho il tuo numero di telefono, sotto avrei scritto chi è. 340-36-5755. Aspetta, andiamo piano, che devo ancora assumere il telefono. Aspetta. Dimmi, 340 3 6 5 7 5 5 8 3 6 5 7 5 5. Aspetta che lo salvo. Questi quando lo mandi cosa mi salvo tutti quanti. WhatsApp ce l'hai già, sì. Sì. Aspetta, che ti sto cercando. Aspetta, che ti sto... Allora, eccoti qua. Buonasera. Buonasera, e allora? E allora, mezz'ora. Ciao Daniele, buonasera. Appena atterrato, va. Ciao Massimiliano. Ciao già, buonasera anche a te. Avvivitosi. Cosa? Avvivitosi. Sì, sono atterrato una mezz'oretta fa, 40 minuti fa. Slocciato, messo monotalco, messo sticche delle ascelle, rasato, barba, capelli e tutto. E allora sei proprio per friggere, dai. E per monotalco. Sì, pronto da impanare, friggio. Avanti, Danilo. Cava. Allora Massimiliano, che si dice? Che si dice? Che anche oggi ci abbiamo fatto il mazzo. E va bene così, dai. Portanto farcelo tutti i giorni, vieni Vusia. L'importante è quello. Poco o molto, importante lavorare, dai. Cava. Va bene. Io sto aspettando, non so se ce la faceva Gianni, il profeta, a alzare l'antenna oggi. Sì, no, ti volevo fare una domanda, Daniele. Ma tu per caso c'hai patente C? No, zero. Ok, allora niente. B e B. Ma con la B non basta. C'è F, stavi lavorando. Aspetta un secondo, c'è una fascia. Cappa già, avanti già. Qui c'è Natalino, ce l'ha la parte che... La di che padre, la di col capo. Daniele è più ragazzo, capito? Capisci a me. Sì, vabbè, li cercano ai tanti. Vabbè, non c'è nessuno, Claudio, non è entrato nessuno, Tino, è tutto Giulio. Giulio non lo so, sarà ancora recuperato, penso. Tino non l'ho sentito, Claudio, sono attaccato da presto, però ho sentito solo Daniele che stava... Quando la portate ho fatto entrare, perché non abbiamo sentito altra gente. In che senso ricoverato? Io non so nulla. Illuminami. Io ho detto che ci doveva recuperare. Mi hanno detto solo quello. Ho detto io mi devo recuperare. Speriamo che vada tutto bene, eccetera, eccetera. Però non ha specificato il perché, ma come. Oddio. Non sapevo niente. Ho visto. Vabbè, ma già c'è tutto l'intervento. Sì, ma non sapevo neanche quello, capito? Vabbè, magari ne ha parlato quando io non c'ero in radio. Va bene, va bene. Speriamo bene, dai. Ha detto anche questa frase che non è possibile che uno lavori tutta la vita e poi quando va in pensione si ammala, dice è una vita proprio di merda. Vabbè, gli acciacchi vengono a tutti già. Ce li abbiamo noi, cioè perlomeno ce li ho anche io che sono più, molto più giovane di voi, figurati. Va bene che va bene. Mi stavi dicendo ieri, ti ho fatto una domanda, no, se l'S80 arriva sull'80 arrivati la M o arriva in banda laterale a quella quota lì? No, in AM da sui 20-25 watt. Il mio perlomeno, io l'ho comprato nuovo, non lo so se qui va toccato, va, non lo so. Io l'ho comprato nuovo dalla scatola e ti dà sui 20 watt. Va praticamente da 10 a 20 con picchi positivi. E il banda laterale non lo so, lo devo attaccare, però qui è venuta gente dentro che siamo, l'ha risposta subito, poi è venuta gente a casa e non l'ho potuto fare, quindi. Adesso se vuoi non attacco, non provo il banda laterale, vediamo un po' quanto mi dà, però te lo dico di sicuro. Ma io sono una curiosità, Mircea, non per altro, capito? Perché se lo chiamano 980 vuol dire che da 80 watt in banda. Credo che sia una cosa del genere. Dai, nel frattempo mi ascolto un messaggio vocale, aspetta. Chi è? Un attimo, sto ascoltando un messaggio. Andale. E quindi già? Gappa, gappa, ecco qua, dai, sono rientrato. E quindi stai dicendo, sì, no, non ne ho patente superiore, sono la biccio. Peccato, vero. Vabbè. Alla prossima allora. Oh, stavo studiando per prenderla e poi ho mollato tutto, ma è solamente l'esame di teoria e oltre alla pratica, ma il programma era finito. Massimiliano. Già. Allora, ne da 50, voi modulati sale a 80. In banda? K. Invece ne è una trentina, così viene detto, 25. 20, 25, da 10 con picchi positivi a 20, 25. Già buono, dai, già buono la voglia. Sì, va bene, adesso sto usando quello, non so se mi sentite bene. Cambio. Sì, sì, io ti sento bene. Danielito, come va? Vedi, adesso sono 20, guarda, sto parlando e sono 20 watt. Ehi, ha voglia già, va più che bene. Cavolo. È un bel apparecchio. Ogni tanto lo uso. Sembra che non voglia tenere molto riservato. Lo tengo. Ogni tanto mi piace anche questo, quello se no. Invece l'altro lo sto dando, mi sa. Quello. No, il cobra lo do perché lì mi voglio mettere un altro apparecchio al posto di quello. A me la verità esteticamente piace, ma non piace come modula quella radio. Tu l'hai sentito sempre col microfono normale, però Massimiliano, magari applicandoli un MB+5 o un altro microfono esce bene, anche perché di radio dalla casa esce molto basso di radio. Infatti l'unica operazione che ho fatto è che mi ha dato la decidere della radio bassa, tutto lì, appena e non assai. Ma poi è così digitale, ti ripeto, esteticamente mi piace, però è un po' così, vabbè. Ognuno giustamente poi si gusti. Io l'ho preso proprio perché mi piaceva esteticamente, perché anche lui che vuole la sua parte diceva quello, no? Tu mi dici, quell'apparecchio lì esce bene, per dire, a me non piacciono certi tipi di apparato, escono bene, però come estetica non mi piace, c'è poco da fare. Ognuno, già lo sai che ognuno c'è sui gusti, quindi non è che... non avete messo su qualche mercatino qua i roghi a Sassari, lasciate, non ti rimbigliare su. No, io lo so già chi darlo, ma comunque No, non è che mi sta chiedendo nulla. Mi sono vendute tutte le capi insieme, tutte e cinque le ho vendute, quelle che sono nate, tutte insieme, tutte allo stesso proprietario. È venduto che cosa? Non ho capito. Tutte le capi che mi sono nate, le capi peruviane, le ho vendute tutte allo stesso proprietario, tutte e cinque di colpo. Stamattina è venuta, ce l'ha pigliati. È buono, buono. Ascolta, ho visto l'inserzione che stai vendendo le capi, ecco, me ne servono due, non è che ce li hai, tu sì ce li ho, poi mi ha detto che veniva sabato, ieri mi manda il messaggio e ascolta, ho cambiato idea, ci vuole troppo tempo, questo e quell'altro, non l'aggio manco il puso. Ma ascolta, le capi sono tipo quel cricetto un po' più grande, giusto? Allora, sono praticamente molto pelose, non sono porcine di Lidia, ma sono capi peruviane le mie, sono pelose tipo, sì, tipo il coniglio più che altro, diventano grandi così, e sono molto pelose, hanno il pelo tutto arruffato, lungo, che discende, è presente lo Yorkshire, così. Ho capito, ho capito. Cazzo, è meglio, allora che ti levate voi a tutti. Perché ce n'è un'altra incinta, se no era un casino, capito? Mi piazzavo bene gli animali. Siccome questo qua del negozio prima me le pagava 15 euro l'una, e poi un giorno gliel'ho portata e me le ha fatte mettere nella gabbia, e dopo mi ha detto, no guarda, ti posso dare 9 euro l'una, gli ho detto, cavani di tua carta, io e me le ho portate via. Se ne ha già scalato 6 euro. Ha detto che lui li trovava per meno, e lo sai quanto le vende? 30 euro l'una. Lui ci deve guadagnare, paga le tasse, paga tutto, quindi... Va bene così, dai. Avanti, Daniels. Buonasera. Rava, buonasera Gianni, dai. Benvenuto, riprendi. Ciao a tutti, ciao a tutta la ruota. E allora, cosa si dice? Ciao, Lubrefetta. Ciao, Gia. E cosa si dice? Stiamo parlando di conigli, di topi, di... scoiattoli. Ha detto tutto tranne che quello che deve venire, delle capi peruviane. Io voglio uno zoo, no? Adesso ne ho due della leva di, che quella che ha fatto prima i figli, dai. Prima dell'ultima leva che hanno fatto. Ne ho altri due. Un mese di differenza tra uno e l'altro. E due mi sono avanzati. Se ne vuole qualcuno sono disponibili, non morsicano, sono docili con i bambini, ma se mi date la copia. Ma manco 6.000 reali la voglio. No, ma non perché non mi piace, però basta con gli animali dentro casa, mi bastano, mi avanzano. Io ho il cane dentro casa, piccolino, quello che avevo preso da Antonello, quello di Ossi. Il pincher, c'ho un gatto femmina, c'ho un gatto maschio e il gatto femmina ha fatto due gattini che adesso c'hanno un mesetto e se deve portare via mia cognata, a chi non li voglio dentro casa io. Ma adesso stanno sempre dentro oppure li lasci fuori? No, da quando sono nati sempre dentro, il maschio gli hanno fatto tagliare le balle. Sterilizzati? Assolutamente sì. E allora? No, perché il maschio, siccome qua fuori ce ne sono anche altri di gatti, ma non entrano dentro casa e stanno sempre fuori. Però cosa succede? Che il maschio quando entra in lavoro dentro casa dimisce a tutto, hai capito? Quindi sarà un paio di mesi fa sono andato, ho portato a veterinario, io buca di balle a chi si noi, che il sciabide giù. Non sai cos'è Massimiliano, in campagna servono sempre comunque i gatti, perché anche non volendo quei topolini piccoli di campagna ci sono sempre, e i gatti sono utili, dai. Lascia perdere che questi sono abituati a scatolette, non a gara, a zuppi. Ma io, per quelli di fuori si vuole mangiare burro a terra, a me non mi interessa. Il problema è che io il maschio e la femmina ce l'ho dentro casa, hai capito dove è il problema? E con il cane, d'accordo va? Sì, assolutamente. Adesso i gattini ancora non è che lo conoscono bene, quindi quando si avvicina si gonfiano, si va a tipo scheletro. però adesso i due gattini, c'è il maschio e la femminuccia, e quelli lì ce li porta via mia cognata, tutte e due assieme, se no si batte in vura tutti e due. Secondo me è tua moglie che ti piacciono molto, tu non sei molto per gli animali, vero? No, a me piacciono più i cani, devo essere sincero, a me i gatti non, io non li posso vedere. Ah, dimenticavo, c'ho anche il gricetto, vabbè, pesci tropicali, e la tartaruga, meno male, mi è morta e non le voglio più. E cosa c'ha di pesci tropicali? Ne avevo un casino, c'avevo gli scalari, c'avevo i guppi, c'avevo i balloon, da buco cosa va via, però ce ne sono stati un bel, ne avevo un bel, adesso mi ha lasciato solo il balloon. Allora praticamente gli scalari con i guppi non vanno d'accordo, beh, secondo me ti hanno fatto sbagliare comprandoli, perché no, io c'ho tutto, c'ho tricogaster, c'ho i neo, c'ho i pulitori, c'ho i corridoras, avevo avuto anche, avevo comprato anche una volta la murena tropicale e stava sempre dentro la brocca con la bocca aperta, era troppo bella, mi è morta perché mi ha detto che gli dovevo dare mangime di quello liofilizzato, di quello che si sono surgelato, non liofilizzato, e io gli davo sempre mangime di pesci, capito? E io non esabivo, non mi ha detto nulla quando l'ho comprato, pensavo che mangiasse quella roba lì, invece mangiano praticamente mangime congelato. E mi è morta così, era bella però, l'avevo pagata anche un po' di dinaro. Ho avuto le aragoste tropicali, hanno fatto i figli nell'acquario, tutto l'acquario pieno di figli, gas eccetera. Assomiglia, anch'io ce li ho i neon, no, ma gli scalari ero... già, dipende, ha detto, come le abitui, se stanno insieme ai gruppi ci sono quelli che sono più cattivi, che li mangiano la coda, e ci sono quelli un po' più bravi. Ma io mi ha tenuto i balloon, che sono belli, e stanno sempre figliati, sempre i ventifiglioli, adesso ce ne saranno una ventina. Va bene, dai, se no stiamo polverizzando. Avanti, rubro fè. La casa degli animali, cazzo. Bene, bene. A quanto ho capito, vedo che non siete soli, dai, mi fa piacere. Bene, Meda. Volevo dire una cosa. Adesso, se tutto va bene, devo fare un altro paio di esperimenti e forse domani mattina riesco a mettere questa antenna. Ancora non vi ne va? No, stavo leggendo un po' di cose e poi stavo misurando, ho fatto delle misurazioni col portatile, stavo vedendo un po' di cose. Cavagava, va bene. Fai, poi ti diamo il segnale, 9-5. Adesso vediamo un po' come arrivi quando c'è l'altra antenna. Sicuramente qualcosa di differenza sicuramente ci sarà. Adesso mi devo, ho un ultimo dubbio prima di piazzarla, e niente, poi mi sono fatto i segni sulla bobina col pennarello, più o meno ho fatto svariate prove dal punto più basso al punto più alto del rosmetro e mi sono segnato col pennarello i punti nella bobina, così, e poi vediamo un po', vabbè, una volta che la provo su domani sicuramente cambierà qualcosa. E poi la regoli contro il stazionale, bisognerebbe farlo in due, con due portatilini, uno sta giù, uno su, e uno regola da sopra, e l'altro dice sì, adesso va bene, uno e uno, capito? Bisognerebbe farlo in due quel lavoro. No, ma già riesco a farmelo da solo, c'ho il portatile, c'ho il cavetto, attacco direttamente tutto in loco, non ci dovrebbe essere problemi. Ah, lo attacchi al portatile per provare? K, sì. Mi porto il portatile su quando faccio le prove. Ah, va bene allora. Se è così, se puoi attaccare l'antenna, il cavo dell'antenna al portatile, va bene. Sì, ho già un cavettino da uno spezzone che avevo, mi sono fatto il cavetto col BNC e il PL, è già pronto. Ah, bene. Avanti Danielos. Cava, cava. Speriamo bene domani già che la tiri su questa antenna, raga. Dai, dai, dai, dai, non ti preoccupare, Daniele. So che ne hai più voglia di me di sentirla, però vabbè, già piano piano voglio cercare di andare a colpo sicuro, perché non voglio stare a stende e farende, anche perché una volta che è stesa, cioè già è parecchio lunga, quindi meno rotture di balle c'è, meglio è. Ciao, ragazzi, dai, aspettiamo domani a vedere l'evolversi della situazione. Riprendi Massimiliano. Sì, io mi riprendo che è arrivata mia figlia dalla gita, che era arborea, e vado a salutarla, vediamo un po', gli hanno dato una busta di regalini. Se ci siete riprendo dopo, se no ritenetevi salutati, ok? Ehi, ciao, ciao Massimiliano, buona questa greca, andate, riprendi Dubrofe. Ehi, adesso se riesco a trovare il modo per bloccare il filo sulla bobina, perché quella pinzetta, quella molletta, boh, mi sembra un po' precaria, un morsetto o qualcosa del genere vorrei trovare. Lei deve procurare, già tiene quel morsetto, fidati che tiene, perché si già parecchio. Ti dovresti procurare quei morsetti che hanno la vita passante a stringere, e così glielo punti e non si muove più. Vi siete parlati sopra, tutti e due. Chi sei Gianni? Tocca a me. Fai la fila. Allora, ho detto di vulcanizzarla bene, nei punti strategici, così non stai a salire 50 volte. KK. Sì, adesso devo, cioè, la prima cosa che devo fare è uno, tirarla su, regolarla in altezza, è quella consigliabile intorno ai 4,30 m, e poi giocare sulla bobina. Ma non ci sono i segni nell'antenna dove si deve bloccare, perché nella mantova ci sono i segni dove tu devi bloccarti lì e basta, sul segno e sei a posto. Quando tu scendi è un stazionario tranquilla, quasi non si muove. Lo so già, però questa antenna, se tu entri nei forum e senti un po' di pareri, non ha una buona reputazione. Bisogna lavorarci sopra. Oh, vabbè, se vedete il forum tutte le antenne hanno problemi. Gli unici che vanno bene sono le Mantova e un'altra antenna che non mi ricordo, che ho visto che stavano parlando bene. Poi tutte le altre dicono che non servono a niente. La Ringo come la Mantova è quella che c'ha tanti radiali. No, la Ringo c'ha lo spirale senza radiali. E c'ha la spirale, sì, anche sopra ce l'ha. No, c'ha la bobina tipo la Mantova, però è senza radiali. E sarà un altro tipo quella lì. Io ne ho visto una che c'ha praticamente radiali giù e radiali sopra, per la punta. E ne hanno parlato molto bene, adesso non mi ricordo che modello è, però c'ha radiali sia sopra che sotto, è un nuovo modello praticamente. Quell'antenna già, quella è, fa, non so, diverse bande fa quell'antenna, l'ho vista, e costa una barca di soldi. L'unica è la Mantova, anche io dico così, perché io ne ho provato tante e la Mantova è quella che mi ha dato più soddisfazione. Tra l'altro ce l'ho quasi 20 anni, mai, cioè una volta solo l'ho scesa per pulirla, ma perché l'ho voluto fare io, no perché mi desse problemi, e poi l'ho rimontata tutto lì, gli ho ritirato i tiranti e via. Adesso c'è roba di 20 anni sopra il tetto. Quello sì già, ma ce ne sono tante alla fine antenne valide, che se dai retta al forum tutta questa gente qua esci di testa, fin fine non copri più nulla. Adesso mi stava imporrando la Game Master, ma l'unico problema che c'ha è che c'ha i radiali vetrorigida, la vetrorigida si vetrifica, non mi piace per quello, se no fosse stata tutta quanta in alluminio l'avrei presa. L'ho trovata anche a 148 euro. La Game Master è quella tutta dritta caricata sotto. Cava, cava. Ah, vabbè, io con questa, con l'energia mi sto trovando bene. Cavolo, ho fatto collegamenti anche l'altro giorno, con Mezza Italia. A Voglia. Che antenna hai piazzato tu? L'Energy 5 ottavi, che c'hai 3 radialini. Ma adesso ci sta con i radiali, Daniele? A Voglia già, passa tranquillamente perché non c'hai radiali, come i soliti radiali, dai, che uno è di fronte all'altro, diciamo. Questa ce l'ha spassati a triangolo, diciamo, quindi riesco a girarmelo con lo spigolo lì dalla mantovana e riesco a farla salire intiera. Bene, quindi l'ha alzata di più, Daniele. Sì, in teoria ci manca uno spezzone di palo, che manca, il quarto elemento. Se metto il quarto elemento, ho gli altri due, diciamo che diventano sottili come quelli del palo TV. Capito, solo un elemento che manca, no? Adesso la lascio così o prossimamente le raggiungo, boh, vediamo, la Voglia. E che palo hai messo di quello telescopico? Allora, ci sono 10 metri di palo, mi sa, 10 o 12 metri di palo che ho messo. Io lo stesso, no, 8 metri sono, mi pare. Io l'ho messo lo stesso qui in telescopico, ce l'ho vent'anni, tutti dicono che non serve a nulla, però io gli ho fatto una cosa, ho messo il palo telescopico e al centro, dentro, gli ho messo il tubo d'acqua per rinforzarlo. Ma non si è mai pigiato, vedi la Claudia, in punta c'è il tubo d'acqua. Ci sono tante soluzioni già. Già va bene. Dai, riprendo un secondo che mi assento, dai. Allora, riprendo io e devo andare a portare giù il cane. Dai, avanti, un profeta, un altro passaggio e poi vado a portare giù il cane. Eia. Bene, Mela. Dai, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa succede. Voglio avere meno rotture di balle possibile. Speriamo che di imbroccarla la prima. E niente, così facciamo il confronto. Spero che ci siano dei miglioramenti, cazzo, perché sennò, insomma, stare lì a montare e piazzare è una rottura di balle. Ma vediamo un po' domani mattina, dai. Ok, già, buona uscita e ci si aggiorna. Se mai provi, ma non sai, quindi devi per forza farlo per vedere se va. Dai, non c'è problema. Già, sicuramente rende di più. Anche se va bene anche adesso, è la verità, arrivi bene a casa, arrivi bene. Arrivi bene da tutte le parti, a quanto ho sentito io, ti sentono tutti bene, quindi diciamo che è uno sfizio che ti stai togliendo, però non è che lo fai perché esci male. Va bene lo stesso, dai. Ci sentiamo, il profe. Salutoni anche a Daniele e a tutti gli altri amici che sono in ascolto. Ciao, doppio Ruco, rete esecutivo. Buona serata a tutti. Ciao già. Buon proseguimento. Lo profe, aspetta, va a farmi una sigaretta, sta arrivando. Capa. Ciao Gianni, dai. Buona passeggiata. Chi vuole entrare? Avanti. Chi è questo già? Guarda se riesci a farla entrare. Che non sto uscendo di radio. O è qualche portante. Dai, che sta andando a farmi una sigaretta e sta arrivando. Eia. Fumaiolo, già. Allora, diciamo, Daniele Civiniera. Sei un turco. Chi è che mi chiama? Va. Chi che ti ascolta? Basso, ma ti ascolto. Dai, chi chiama? Il segnale no, ma la radio è bassa. Ma non so chi sei, non ho capito chi tu sia. Ciao fra. Dai, sto chiudendo, sto portando il cane col portatile, stai uscendo. Già ti sento io già sento a tu. Dai, sto portando il cane giù, ci sentiamo alle prossimine. Apri. Ciao. Qua arriva solo un segnale, però la radio veramente non si sente. Thank you. Avanti. Capo, lei ascolti? Sì, adesso sì. Ciao, buonasera. Ciao, Franco, d'ascolto. Ciao, Franco. E allora, cosa hai combinato? No, niente, sto provando due portatili. Ah, capo, quindi sei col portatile adesso? Capo, però sono collegato con l'antenna grande. Ah, ok. Adesso ti sento. Prima arrivavo alla portante, ma non si sentiva niente. Il primo vuol dire che come microfono dovrebbe essere difettoso, mentre questo sembra migliore. Kappa, puoi dire di che portatile si tratta? È l'Enicom 50S. Kappa, non lo conosco, comunque va bene. Bene, me dai. Kappa, un mattone, quelli della I. Ah, adesso forse ci ho capito qualcosa. Infatti questo mi dà anche un batte in più, l'altro mi dà due batte, questo invece tre batte. Eia, chissà perché, ma quando riprendono te li danno per 5, invece sono sempre meno. Tutti te li danno per 5, te li danno. Ne ho altri due io, ho la 48 più la FM 548 solo, sì. Che ci hanno al posto di 5 watt, ci hanno 2 watt e 2 watt e mezzo. Kappa, anche io con lo strumentino stasera ho controllato l'Alan 38, il portatile, 3 watt e spiccioli, qualcosa. Che c'è di adesso? Kappa, adesso stai uscendo di radio, prima no. Questo è l'altro portatile. Anda bene, veda, fai un passaggio e ti do anche il segnale, mi sembra che sia intorno ai 5, prova. Sì, va bene, il segnale più o meno è sempre quello. Kappa, ma chi è? Franco, Kappa, che sono io. Mi sembrava la voce. Buonasera, Fra, ben sentito. Cosa stai facendo? Prove tecniche di trasmissione? No, due portatili che ci avevo da una parte, che ho visto, oggi di qui c'è vedere che funziona da fuori. E hanno preso anche un indicato, e invece funziona. Cava, cava. Già funge. Va bene, cambiamo con le radio grandi, va. Metti l'antenino su, non credo che arrivi qua a Sassari. Dove ti sta proprio? Cosa già? Ho detto che Franco sta uscendo col portatile, però è agganciato all'antenna base. Vabbè, quello mi sa che l'hanno fatto un po' tutti. Poi se col gommino è ancora meglio se arriva così forte, ma ho i miei dubbi. No, se piazza l'antenino su non ci arriva qua. No, non ci arriva lì, no, con l'antenino su. Devi essere proprio in alto, infatti, io sono in alto, però vedo anche cassa di là qua, però non ci arrivo. Kappa, qui risulti più a Sennori che a Sorso, dai. Kappa, l'entrata su. L'altra perla, diciamo. Va bene. Va bene, dai, riprendete voi che sgancio da qua. Ok, Fra, dai, altri due passaggi e poi anch'io devo fare un po' di carica, anch'io ci sono stanco. Cava. Stavo dicendo a doppio room che probabilmente se non ci sono intoppi domani mattina voglio provare a piazzarla, vediamo un po'. Ha già, però vero, mattina non ci sono e sono al lavoro. Comunque tu piazza e poi vediamo già cosa succede. Chi è? A comprare le batterie domani mattina qua dai cinesi per il portatile, e così prima di tirarla su mi faccio un paio di verifiche e poi una volta che più o meno abbiamo capito più o meno il tipo di lunghezza, allora la tiro su. Andale, prova. Se no te la punti dal terrazzo da qualche parte, basta che resti in piedi, non tocchi nulla. E vedi cosa succede. Forse va meglio così. Un abisso, Fra. Già lo credo. Già si sente che lui si sente. Questo è il bambino. Il bambino grande è quello. Già va bene. Che cos'è, Fra? Un 40 è quello. Giusto, Fra? Ho detto 680. Canale, canale 2, si sentiva dallo stacco. Era il K, però pensavo che fosse il 40. No, negativo. Non ho mai avuto il 40. Ho avuto sempre questo. Che è il gemello del 14, così è. K, uguale identico il frontale, identico. Solo che cambia quasi niente, dai. Cambia solo che c'è l'amplificatore, questo, l'antenna e 50 mega, se basta. K, già va bene. Però la linea completa non ce l'hai di quello, no, Fra? Negativo, c'ho solo la colonnina esterna sua e basta. La stavo cercando l'accordatore e non l'ho trovato. Adesso ne ho visto qualcuno su eBay, però sono messi male e ne vogliono troppo. Guarda che ce n'è uno, a meno di 200 euro lo stanno dando. Ma l'ho visto, quello 190 mi sembra, una cosa del genere, 89, mi è messo male. Io l'ho visto così, l'ho visto le foto e basta, poi non lo so, poi l'altro è 200 euro a salire, c'è anche due o tre ce ne dovrebbero essere. E poi c'era l'offerta del 14, non so, guarda, un prezzaccio a 230 euro mi sembra. Capo. Già ne ho visto parecchie, ne ho visto, ma a me il radio non mi interessa, comprare la radio non mi interessa. Ma veramente non voglio spendere più soldi per qua, non voglio spendere, ne ho abbastanza. L'avevo detto anch'io anni fa e poi sono ricascato, da. Mannaggia. Anch'io ho venduto tutto tanti anni fa, nel 2000, ho venduto tutto. E poi mi sono dovuto ricomprare tutto quello che c'avevo prima. Io lo stesso, meno male che ho tenuto queste due, sono stiamo imbarcando anche queste due. Me l'avevano regalata per un Natale e quella mi dispiace darla, però come si dice, e l'altra la stavo per dare, ma la voglio dare ma non la voglio dare, cioè questa, e poi ho ricomprato tutto. Così succede, e a volte io pensavo che non le prendevo più, anzi me l'ho anche dimenticato. Mi ha fatto salire la voglia un radio che stavo facendo un po' di pulizia, un radio l'ho trovato dentro una cassetta, ho provato a accendere. Ho messo l'antenna che aveva anche la base magnetica per la macchina, l'ho messa sul tetto, ho provato e mi aveva risposto, prima di tutti mi aveva risposto Gian Maria, mi aveva risposto. Dal giorno ho cominciato a piazzare, a fare e ci sono rimasto e ho cominciato a comprare. Che l'ho fatto io? Questa portata a casa, tolta la macchina, pensavo lo smitter, sistemato lo smitter, attaccata, poi vabbè è sceso il raio, poveretta, l'ho provata a sistemarla. E poi ho iniziato a riprendere roba lo stesso. Va bene, soia. È già una bella cosa, dai. A posto di spendere in porcherie, cianfrusaglie e varie, meglio in questa passione che in altre cose. Capo. A proposito, tu hai portato la radio da poco, dal vino l'hai portato. Capa. Capa, ma in quale paese è? Morore, quanti chilometri sono lì? Quanti chilometri sono? Una settantina, chissà. Una settantina, allora si possono anche fare, quasi quasi ci faccio un salto e provo a portarle due radio, a metterle a posto. Capa, chiamalo perché se Lincoln non è fa, mi sa, No, Lincoln no, non glielo porto, quello no, c'è un Cone che se 3.000 sì, ma non deve solo, come si dice, fagli una piccola revisionetta e aumentarli appena di watt. Vabbè, i watt li so aumentare anche io, però tocca metterlo a posto perché sono stati toccati i trimmer. Cappa. Vabbè ragazzi, io vi saluto che qua è pronto, dai. Ce l'ascoltiamo domani se coincide. Buon proseguimento e buon tutto. Già, fammi sapere appena monti qua la Suria. Tranquillo, dai. Già ti avviso, non stare così preoccupato, ok? dai, va bene. Buon proseguimento ragazzi, dai, ci ascoltiamo domani e buona giornata. A domani, ciao. Sì, domani provo a mettere su questa Ringo, vediamo un po' cosa succede. Ciao Daniele, ci sentiamo. Dovrebbe andare meglio, di sicuro va meglio, vai tranquillo. Speriamo di non dovermi azzuffare troppo per accordarla. Ci ho messo un po' perché stavo leggendomi alcune pareri, alcune dritte, insomma oggi ho fatto alcune misurazioni col portatile agganciato per vedere un attimino dove va posizionato quel filo volante sulla bobina. Me ne sono segnato col pennarello per avere due riferimenti di massima e vediamo un po' cosa succede. Ma qual è quella dell'antenna? Quella che si tara dalla punta dell'antenna oppure quella della molla? Guarda, alla base c'ha due spire del diametro di 20 cm in alluminio. Ma c'è una spirale a molla, tipo molla? Due spire, sono due spire del diametro di 20 cm. Allora dovrebbe tarare, prendere la taratura da lì. Sì, ma anche la lunghezza a quanto pare è importante. La taratura di massima si fa tramite la lunghezza. La taratura di fino si fa spostando il cavetto sulla bobina. Non la conosco quell'antenna e non lo so. Non è come la Mantova allora. La Mantova basta regolare la molla o su e giù e tra la centrobanda e via. Questa è un po' più rognosa, dai. Bisogna starci più addosso. Poi vabbè, una volta fatto quello vanno isolati bene l'attacco dei tubi, dello stiro e la base dove c'è l'isolante in plastica, perché sennò poi crea problemi. Quelli fateli a terra fateli quelli lì tutti quanti, preparatela già vulcanizzata, tutto, e mettili un po' di vasellina. Sì, quello sì. Faccio le prove perché praticamente è consigliabile mettere gli stilo, cioè stenderla tutta a 4,30 m, 4,30 m, e poi provare ad accordarla giù. È soggettivo. Ciao Marco, buonasera. Ciao Marco, perché non ha gli stili, quando tu gli infili, hanno fine corsa, no? Ce l'hanno quello, oppure non ce l'hanno? No, sono dei comunissimi tubi in alluminio con delle fascette all'estremità dei tubi. Sì, ma quando tu la infili un elemento, lo infili per infilargliela, per entrare dentro, dovrebbe avere un fine corsa come la Mantova. Questo non l'ho appurato, Fra, quindi non te lo so dire. Così è, Marco. Ciao Marco. Ciao Franco, ciao Daniele, io adesso manco me lo ricordo più, io so solo che l'ho sopportato un anno e poi l'ho tolta perché non... addirittura si era mollato il centrale dall'isolatore, cioè ballava lo stilo nell'isolatore, praticamente era la molla che teneva lo stilo, proprio malfatta, fatta in economia, se no non avrebbe senso che la Ringo della Lem, no, la Ringo Lem costi 38 euro, 39, Shell Energy 90, 100, c'è differenza, e la qualità dell'alluminio anche, è più lucidato, fatta meglio, dai. Capo. Oh, scusate che mi devo allontanare un secondo, ci sentiamo dopo, dai, riprendi Gianni. Eia. Sì, ma qui adesso vabbè, mi sono segnato col pennarello, ho provato ad attaccargli il portatile al volo con lo strumentino, ho provato in linea di massima, mi sono segnato i punti ideali su cui si dovrebbe muovere il contatto del filo del polo caldo. Solo che una domanda già, se a Daniele era tarazza, no? Daniele quando l'ha piazzata, quando l'ha usata era tarazza, no? Tu perché non hai provato a usare con la taratura originale la lunghezza dello stilo che aveva fatto Daniele? No, è tutta smontata, cioè era tutta smontata, comunque i segni ci sono. I segni ci sono della precedente installazione. Perché te l'ho detto, il mio è un caso particolare, l'ho tarato a un metro, già ne abbiamo parlato, inutile ripeterci. Sì, comunque è vero, non prendere per oro colato quello che dicono sui forum, uno addirittura dice che la tarata l'ha fatta a 3,30 m di stilo. Ma quando mai? Cioè, da 5 metri la fai 3,30 m? Non ha senso. Comunque hanno fatto un pasticcio con quel progetto, dai. L'hanno peggiorata quelli dalla LEM, capito? Anziché migliorarla l'hanno peggiorata. Vabbè, dai, comunque sono al computer e mi sto azzuffando, dai, riprendete voi. Il tuo non è un caso particolare, il tuo è un caso patologico. Aspetta, che ti ascolto basso di radio, puoi alzare? Nel senso che la devo mettere su un comodino. Antonio, tu sei? Abba Roger, mi sto ascoltando, ciao, ben sentito. Ciao Antonio, tu peraltro mi avevi detto tempo addietro che mettendo dei radiali, mi pare di ricordare, aveva migliorato la resa addirittura, cioè non mezz'ora con radiali. E purtroppo se no non costerebbe così poco, capito? È troppo, è un compromesso, ti dirò, non la userei nemmeno in postazioni temporanee, preferisco a quel punto una mezz'onda Sirio o Midland con la bobina chiusa, mi sigillata. Infatti quella lì, allora, quella con l'antenna è la mia, quella, cioè la mia, l'ho data a Daniele, poi Daniele, siccome gli ho venduto una 5 ottavi che avevo, che la Energy, gli ha dato quell'antenna lì. Quella lì è una mezz'onda, la devi calcolare in base alla mezz'onda, quindi. Io sì, su vari forum si sono azzuffati, non riuscivano a trovare il punto di risonanza della bobina, allora hanno dovuto modificare lo stilo come ho fatto io, cioè ho dovuto accorciare molto. Eppure già lo sai che la Ringo era un progetto talmente elementare, addirittura le prime avevano un solo giro di spirale, no? E poi la spirale, tu lo saprai meglio, cosa fa la spirale? C'ha un valore, cosa fa da condensatore? Io ho letto un termine del genere, non lo so, l'ho letto sul progetto originale ma non ce l'ho qua, non me ne ricordo. Allora, a parte che la Ringo nasceva in rame, non era neanche in alluminio, le prime, cioè avevano, come hai detto tu, una sola spirale, e la spirale serviva da, aveva una vera e propria resistenza, capito? Siccome non la puoi estendere per tutta la sua lunghezza d'onda, perché 27 è la lunghezza d'onda, quindi dovrebbe essere la metà e non ci arriva, quindi è la metà della metà, e la spirale serve a quello, a evitare che l'antenna sia troppo lunga. Sì, quella esisteva per i 50 MHz. Comunque te l'ho detto, io l'ho sopportato un anno, poi si è mollato lo stilo alla centrale, ma l'hai visto cosa ci hanno messo? Ci hanno messo una cosa bianca, un collante bianco, sembra quasi il Vinavil per tenerla, ma quando mai? No, è il silicone quello lì. Sì, e no, è un'antenna che se vuoi la puoi trasformare per l'antenna 650, non è un problema, anche perché gli stili li puoi aggiungere o togliere come ti servirebbe nel caso dovessi andare in quella frequenza lì. E i radiali li metti esclusivamente per abbassare l'angolo, diciamo, di radiazione dell'antenna stessa, perché la trasformi in una grand plane, capito? Ah, ecco, gli abbassa l'angolo di radiazione, ho capito. Ehi, a me, lo profè, D'Antonio può imparare, lui è radiatore, ha studiato la materia, quindi ti sa dire qualcosa in più. Dai, comunque non voglio monopolizzare, c'era Daniele, io mi sto zuffando qua con Android, dai, riprendete voi. Dai, QRX per me. K, no, io non posso riprendere, sono in QRX e vi ascolto. Riprendi Gianni, perdonami, da questa parte Antonio Grotte che ti saluta e rimane in QRX. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Guarda, una sola domanda, non ti voglio trattenere poi tanto. Una sola domanda e poi niente, poi scappi. Allora, l'antenna di Daniele ce l'ho io. L'ho misurata quasi tutta estesa, chiaramente con un limite dello stilo infilato in ogni stilo stesso, e sono arrivato a 4,80 m. Visto che questa antenna a quanto pare era la tua, a quanto la devo estendere alla lunghezza massima? No, negativo, 4,80 è la reale lunghezza dell'antenna, diciamo, per la taratura grossolana. E sul fine invece devi giocare appunto su quella specie di cursore, che se non sbaglio ci avevo messo una molletta, e quella molletta lì serve appunto per testare il fine delle stazionarie. Ok, su questo ci sono arrivato anch'io, ho visto più o meno. Senti un po', adesso l'ultima questione e poi quindi praticamente così a bruciapelo, devo fare fede ai segni della vecchia installazione o è una misura a cui mi posso attenere? È una misura a cui ti puoi attenere 4,80, però parti dal presupposto che la vecchia installazione è una condizione completamente diversa. Le stazionarie sono le stazionarie in antenna che tu non riesci a irradiare, e lì lui non riusciva a irradiarle in un certo modo, e quindi l'antenna è tarata in quel modo, perché sennò le antenne uscirebbero tutte uguali già pretarate, cosa che invece non è per questa tipologia di antenna, proprio perché varia a seconda del posto in cui la metti. Ok, quindi mi consigli di estenderla tutta e piano piano provare con le stazionarie e eventualmente accorciarla, così? Parti dal 4,80 come lunghezza dell'antenna stessa, dopodiché la molla te la tari andando al centro banda, quindi dovresti andare sul canale 20-21 e tararti la cosa, ma siccome rimaniamo sempre in questi canali qua, taratela dal 10 al 10 che è meglio. Ok, dai, vediamo un po' cosa succede. Grazie mille per le dritte, ok? Figurati, stai attento piuttosto che dietro il connettore del PL, dove c'è quel funghetto in plastica, lì se piove, se non lo proteggi bene, ti crea massa la pioggia, quindi stai attento. Sì, più o meno ho capito i punti più delicati quali sono, e una volta che ho trovato la quadratura del cerchio sistemerò tutto. Cappa Roger, dai, sono qua, QRX per me. Ok, grazie mille. Vabbè, tutti morti. Ciao Marco. Ehi, non è rientrato nessuno. Ehi, comunque già, non ti sfasciare il cervello, cioè, come sono andato io alla selvaggia. Piazzo, misuro stazionarie, non va, accorcio, muovo la bobina, misuro, non va, accorcio, misuro, insomma, trova. Comunque io avrei, te l'ho detto, avrei, se Daniele ce l'aveva tarata, avrei provato le misure di Daniele, tanto più che i segni ci sono, e lui è così il morsetto. Quella misura che ha detto Antonio va bene, 4,80, poi se non dovesse proprio andare bene, comunque con l'antenna troppe rogne, dai, mi sono dannato io, tarare cose. Peraltro, vediamo se è rientrato Daniele. Ci sei, Daniele? No, è a Papa. Ah, è andato a pranzare, no, non lo sapevo, faccio distratto. Allora, che io ricordi, Daniele arrivava intorno ai 9,95 e presumo avesse quella lì, la Ringo. Con l'Energy arriva nell'ordine 9,10, 9,15, forse anche qualcosa di più, ci ha migliorato molto, molto. Non poco, cioè almeno due Santiago mi guarda che sono un bel, sono tantissimi. Vabbè, infatti io in futuro sarei andato di 5 ottavi, in futuro, quando vuoi, quando puoi, e poi di più non so, guarda, una 5 ottavi leggera, vabbè, poi dipende. c'è disponibilità del tetto, tanti fattori, sei vedi tu, dai. Eia, guarda, lo voglio fare a livello di scrupolo, visto che c'è la possibilità. Allora, si è presentata questa opportunità, Daniele si è reso disponibile, e niente, adesso voglio vedere effettivamente che differenza c'è tra questa Ringo e la Boomerang che ci ho piazzata. Se vedo che c'è un notevole miglioramento, cioè che la cosa funziona meglio, insomma, che l'antenna è nettamente più performante, a questo punto ci lascio la Ringo. Se poi è insomma, a parità di, tra virgolette, di antenna, vedo che la resa è praticamente è quasi irrisoria, cioè mi lascio quella che ho. Ascolta, la Boomerang è una quarto d'onda full size, c'è lo stilo, solo lo stilo, quant'è? 2,70 c'è? No, è quella grande, è la Boomerang, è quella grande, dovrebbe essere 3 metri spiccioli, adesso non mi ricordo esattamente qual è la misura effettiva. Sì, è la grande. Quella è la grande, c'è un quarto d'onda effettivo, perché c'è anche la Boomerang caricata, però ce l'ho, ne ho una qua della LEM, ma è una schifezza, è una schifezza. Poi per esempio di fabbrica gli hanno fatto lo stub di taratura, quello stilettino che tu alzi e abbassi, no? In punta, per fare la taratura, gli hanno fatto di fabbrica troppo lungo. Per quanto tu lo chiuda tutto non raggiungerai, hai sempre l'antenna lunga, quindi lo devi tagliare, cioè queste cose sono calcolate di fabbrica, fattele funzionanti, non è che la gente si deve avvelenare per tarare l'antenna, vabbè, cosa vuoi ti dica? Guarda, io ho messo il radiale a 45 gradi, lo stilo, quello piccolino, quello che dici tu, quello che fuoriesce, l'ho messo tutto all'interno, misurato, ho visto che insomma l'antenna va bene, c'ho 1,1 e 1,2 di stazionarie, che mi sembra nella norma. Ehi, a voglia, oh, poi c'è gente che se non ha uno sta uno, non può modulare, 1,1 né 2, magari gli estremi, certo. Vabbè, comunque non è critica la cosa, io se non vado oltre i due non accordo, non è così critica. Ti volevo dire, che apparecchio ti vuoi prendere? Un'idea ce l'hai? Un base hai detto? Qualcosa del genere, ma tipo Turbo, Saturn? Guarda, in questo momento sono praticamente fermo e non ho possibilità adesso di fare un passo del genere. Chiaramente usando il condizionale ho detto mi piacerebbe un apparecchio stazione fissa, quindi il condizionale è sempre d'obbligo, come si dice. No, vabbè, adesso più che altro vorrei che il passo successivo fosse almeno un apparecchio anche veicolare, però con l'FM e le bande laterali, non capito, perché questo è proprio base. Eia, soprattutto la banda laterale, perché su canali alti ti diverti, sulla tripla 5, ma anche su canali normali, dai. Più che altro con l'Italia a me piaceva, qualche chiacchierata con qualche italiano, vabbè, quando senti i tedeschi, cosa gli vuoi dire al tedesco? Spaghetti e mandolino? immagino. Sì, tutto qua, un apparecchio insomma con tutti i 40, perché questo ne ha quarzati 27, un apparecchio insomma almeno con le bande laterali, insomma con i suoi 40 canali classici e niente, basta, tutto qua. Dico, questo questo è il prossimo, cioè il passo, che il passo successivo, cioè anche un veicolare va bene, anche modesto, niente di così tecnologicamente evoluto, però che abbia almeno le bande laterali, capito? Eia. Ma io ho sempre preferito i veicolari anche per questioni di spazio mie, e poi detto tra noi sono più imboscabili, capisci a me? Ricordati, non si sa mai, sembrava impossibile, eppure un CB che purtroppo faceva TVI anche col omologato, gli hanno fatto un controllo, a sorpresa si è ritrovati, così funziona. Poi vabbè, non, le emissioni erano a norma, però capito, ma la tempora current. E questo quando è successo, da molto? Un annetto fa, 9 mesi, qualcosa del genere. No, ti spiego. Lui, le emissioni erano a norma, c'aveva addirittura un omologato vecchio tipo, no? Però siccome i vicini avevano le antenne tutte compromesse, antenne vecchie ai 30 anni, con i pesciolini nel miscelatore, no? Chiamati, sono dovuti intervenire e gli hanno detto, quando lì si prende un omologato CE, non so perché adesso vogliono questo requisito a norma CE, lei può ondulare dalla mattina alla sera, poi chi ha disturbi si mette a posto l'antenna o roba del genere. E io, perché uso sempre filtro a 6 celle anti TVI per sicurezza, non perché disturbo, ma per sicurezza, non preferisco non avere rogne, capito? Qua tutto questo omologato, 40 canali, sì, con bande laterali, FM, però poi sempre omologato, poi si è notato se resti a usare amplificati lineari, cioè per parlare di città, poi arrivo al produttore, se arrivo a Sorso, Alghero, cosa mi la frutti a me di lineari e cosa? Cappa. Sì, sì, ma in questo momento attualmente non ho problemi di sorta. Ed è meglio così, se no ci sarebbe stato già qualche segnale, quindi attualmente sono abbastanza tranquillo, e quindi non mi devo preoccupare, dai, non sono molesto, diciamo, dai. Sì, il condominio è così, poi qua sono circondato dai palazzi, siamo tutti attaccati, cioè, capito? Poi si diceva che col digitale terrestre non si faceva TVI, pare strano, se uno ha l'antenna compromessa, l'antenna TV compromessa disturbi sempre, cioè, quello è pur sempre il ricevitore che anziché analogico e digitale, ma se l'antenna è messa male, cosa ne so, oppure se tu fai spurie, segnale, cioè il disturbo entra lo stesso nella TV, non c'è digitale che tenga. Beh, vediamo se è piacevole questa modulazione, sono tenuto tutto per andare, buonasera. Ciao T, è ancora più forte di quella di stamattina. Addirittura. No, vabbè, io faccio il paragone con la modulazione di Gianni. Forte, forte, molto forte. Chi è questo che sta uscendo male? Allora spengo tutto. Spengo tutto e vado via. Ciao Tino, bella modulazione, bella. Sono rientrato comunque per gli altri. Certo, buonasera Tino. Ciao, vabbè. A parte il bailare familiare, volevo fare una prova con voi perché ho due microfoni da provare. Questo è il più 5, se mi date un attimino di tempo lo cambio, vediamo se il più 4 va meglio o meno, peggio. Capo. Avanti Marco. Dai, ben entrato, adesso segnali il tuo. Prima ho sentito col portatile, arrivavi 7 comunque, 7 pieno. Radio Fai 3, dai, portatili non hanno mai modulazioni troppo forti, però arrivavi, d'altronde antenna esterna sempre quella, adesso vabbè 6-9, non c'è paragone. Ecco qua, scusatemi, guarda questo qua invece, cioè, No, questa c'ha disturbi, un bel. Ok, non avevo dubbi. Sai cos'è? È amplificata quasi all'inverosimile, cioè si becca anche il respiro delle persone che c'ha in casa. Però se abbassa un po', probabilmente la timbrica è simile all'altro. No, vabbè, dai, era fatto per lavorare con questo P5. Era giusto una prova per vedere un pochino. Sicuramente sì, abbassando l'amplificazione va bene anche quello, però sono contento che va bene anche il P4, quindi lo posso solo cercare di migliorare. C'è un po' di bailare familiare, quindi non è una cosa da ascoltare così. Sì, no, anche col bagliame familiare, questa qua è sempre molto migliore. Quella là c'avevi tanti effetti di come quel REM c'avevi sotto. Ah, ho capito. Va bene, vi ringrazio. Ciao Gianni. Ciao Tino, buonasera. Ascolta, giusto per curiosità personale, a che distanza sei dal microfono? Guarda, braccio steso. 50 centimetri? All'incirca, sì, dai. Ah, adesso, non per farmi affari tuoi, ma come mai così lontano? Perché sono seduto in poltrona rilassato. Ah, cappa, ecco. E quindi compensi la distanza con il gain del microfono, così è? Guarda, così sono a 40 centimetri circa, tenendo conto che la batteria del microfono è leggermente a scarica, quindi non sta dando il meglio di sé, anzi lo smitter del P5 non si sta neanche quasi muovendo, quindi figuriamoci un pochino. Eia, bene meda, ok, grazie dell'info. Era giusto per capire, insomma, ero curioso di sapere questi dati, dai. Sì, guarda, ora ho addirittura fischiando, non riesce a salire a 5-6 di picchi di modulazione, quindi tenendo conto che va come a 9.30, ecco, per farti capire che la batteria è molto molto scarsa, Ha voglia se spinge, a di più lo volevi far spingere. Una marcia in più, Marco, una marcia in più, insomma, tieni conto che sto partendo con 2 watt, quindi... Ha 2 di portante bianca, poi il resto li dà modulati, diciamo. Cappa positivo, Franco, volevo fare una prova con te, ma in un altro QTH, noi siamo troppo attaccati, vabbè, questa è la radio che ha messo un po' in sesto, anzi, l'ha fatta rivivere. Fabrizio, cosa dici? Questo è il Pluto, È perfetto, guarda, è perfetto, è bella la modulazione. Infatti, ti volevo dire, tu hai detto che c'era anche la batteria scarica, se non l'avevi caduta in carica, come te ne è uscito? Vabbè, dai, il segnale è abbondante perché è aiutato, gli ho voluto abbinare un amplificatore per vedere se lo portava bene e soprattutto distorcevo la radio, adesso lo stacco così ti rendi conto anche dalla portata di questa radio, aspetta, ecco. Così è staccato, hai ratti sui modulati, diciamo che sono dai 2 ai ora, 9, 10, non di più. Guarda, se 9 modulati a 9,5 è quasi 9,10, sì, ti dico che la radio si è abbassata un po', però è sempre chiara, 5. Lo so, quello sì, l'aiuto dà anche spinta alla radio. No, ma va bene, anche con modulazione credo che vada bene. Ripeto, la batteria scarica, quindi quello incide. Capo. Ma mi è sembrato che era entrato Gianni del Perù, ma guarda Gianni, tu sì. No, negativo, non era lui. Che prendi Marco? Ehi, quindi... ottima, tu sei un po' fuori città perché 8,5 è non modulato oltre il 9. Sì, sono periferia uscita da Teodolce, qualche chilometro più avanti verso Platamona. Sì, perché c'è la differenza quando c'è l'aiutino. Ci credo, vabbè. Era giusto per vedere se cambiava di modulazione perché sai, molti apparecchi vanno in saturazione, vanno vanno a strappare, insomma, tante altre cose. Voglio riprovare, se mi date un attimino, il più 4 magari abbassando un po' l'amplificazione, così almeno ho il tempo di cambiare anche la batteria all'altro. Ehi, approvo, dai. Oh, questo fa una batteria un po' più carica. Ora, non so se va bene, vedete un po'. Hai dei picchi allucinanti, allucinanti, ancora più forte. E si sente che spinge di più, Fra, cosa ne dici? Sì, però la modulazione è troppo forte, è più forte come il radio, però certe parole sono incomprensibili. È il rimbombo della stanza. Ok, dai, abbasso un pochino, guardate un pochino, adesso l'ho abbassato. Ora, sta spingendo. Ha dei picchi allucinanti, questa radio. Ha fatto un bel lavoro Fabrizio. Guarda se va bene così. Sì, così si è schiarita un po' di più. Prova a abbassarla un altro po'. Bene, allora, adesso la abbassiamo ancora, 1, 2, 3, vedi un po'. Sì, era meglio l'altro passaggio prima, dai, era meglio di questo. Questo si è abbassato troppo. Così è Marco. Sì, no, magari non abbassare troppo. Allora, adesso poc'anzi la 7, ora l'ho messa tra il 7 e l'8, vediamo un po'. Perfetta, così ti ascolto, perfetto. E come differenza di Mike invece ancora meglio la timbrica, questo o più 5, perché vabbè più 5 teniamo conto che ha anche i toni, quindi. Ma diciamo che questa mi sembra più forte del 5, mi sembra. Fra, il 5 era a 6 di modulazione di Mickey, quindi ne avevo ancora da alzare. Vabbè, bisogna usarli tutti e due allo stesso livello. Va bene, adesso provo, adesso trovo anche batteria e proviamo a cambiarla, vediamo un pochino. Venga, ottima, quello è modificato l'MB, perché sembra che spinga più del normale, in poche parole. Scusa Marco che c'è stata la sovrapposizione, cosa hai detto? Ho detto quell'MB più 4 o più 5 è modificato, sì, perché spinge tantissimo più del normale, diciamo. Ma lo sai che mi hai... Allora, non mi ricordo se il più 5 è modificato o questo più 4 è modificato. Questo sicuramente non è normale perché la capsula non è la sua, Vabbè, ho capito. Si è sentito rumore di fondo, ho capito meno. Così. Rumori ambientali. La capsula modificata l'ho capito. Perché c'è mio figlio che sta facendo i compiti e ha acceso anche la televisione. Dicevo, non mi ricordo se il più 4 o il più 5, uno di due è modificato, quello sì, però non mi ricordo se è questo o l'altro ancora. Aspetta che devo staccare che c'è un po' di capogiro, causa cervicale, dai, riprendete voi. C'era anche il profeta, vai il profeta. Infatti anche volevo il parere di Gianni, tu che sei più famoso. No, cosa vuoi che ti dica? Faccio veramente difficoltà io a capire quello che dici. Quindi questa è la mia condizione. Se vuoi, cioè faccio veramente fatica a capire quello che dici. Non avevo dubbi, infatti c'era il problema ieri di questo fatto qua, che io l'ho ascoltato con il Kenwood, quindi ascoltando con il Kenwood era perfetto, però facevo riferimento a te che magari avendo una colonnina un pochino meno seria dell'SP430 facevi fatica a capire, vero? Mi sa che fa fatica a capire anche adesso. Vabbè, ma io abbasso, non è che ditemelo voi, io sinceramente non so. Guarda un pochino Gianni, se mi capisci meglio così. Sì, adesso sì, è che, vabbè, questa è la mia opinione, il mio punto di vista. Chiaramente tirando su la sensibilità del microfono praticamente entrano un sacco di suoni, di rumori della stanza, poi considerano anche il riverbero della stanza, figurati, e niente, quindi è tutto questo insieme, capito, che rende anche non chiara la radio, capito? Infatti, io le prove le volevo fare proprio quando c'eri anche tu, proprio per fare questa prova qua di raccolta fondi. Oh, Tino. Naturalmente io quando ascolto, quando do controlli, tengo sempre il noise blanker ANL disinserito, sempre, anzi lo lascio disinserito, perché è una cosa che ho notato anche sul Kenwood, è l'equivalente del noise blanker, se inserito mi falsa le modulazioni, cioè le senti come strappate, come sature, per cui lo disattivo, è sempre disabilitato. Sempre, proprio rovina le modulazioni, soprattutto quelle molto larghe di emissione, molto forti. Vabbè, ma io cosa devo fare? No, nulla, dico, no, e qua è disabilitato il noise blanker, sempre, potevano anche non metterlo. Ah, ecco, beh, certo, vabbè, dipende, ma tu parli, per dire, nel game do la TIMI. E l'equivalente, non mi ricordo cosa avesse il K, CNB, ANL, quando lo inserivo davo i controlli di radio e dice, ma com'è possibile che strappi? Ed è quello che ti rovina la modulazione, a chi ascolta, a me, perché per il ricevitore. Vabbè, comunque va lasciato disinserito, vabbè Gianni, magari guardate che ce l'abbia inserito di serie, di default in quell'apparato, oppure la colonnina è piccola, perciò ha più difficoltà a capire, a sentire bene con la radio. Ah sì, l'NB, ce l'ha anche questo. Io ce l'ho inserito, cioè disinserito per ascoltare quelli più lontano, però effettivamente, come hai detto tu, nella banda cittadina non è necessario, ecco. No, guarda, io lo usavo solo in macchina, noise blanker, per via del QRM del motore, no, il poco QRM che faceva il motore. Però a casa preferisco mettere un filo di squelch, proprio un filo, tanto da levare il soffio di fondo e buh. Ma non credo che lui lo abbia, No, lì mi pare a volume, squelch e buh. Oh, sì, no. Ma il mitiglio della radio, come ce l'hai al massimo? Sempre di norma. E prova a metterlo a mezzogiorno. Aspetta, che domani sto togliendo la batteria, un attimino. Allora facciamo così, lo rimettiamo 7-8 come era prima, e il mitiglio della radio, ora, provo a abbassarlo, ecco, così ho abbassato. Ok, il microfono ce l'hai al massimo? No, tra il 7 e l'8. Adesso lo metto anche a mezzogiorno, guarda un po' se ha cambiato. Sì, ha cambiato, si è abbassato. Aumentano più di luna. Allora, ora, infatti così sta dando un po' più vasta anche. Ora, perché più ridà l'amplificazione più spinge. Guarda un attimino così. Prova a parlare un po'. Vedi un po', Gianni, si è migliorato un pochino, ma adesso voglio cambiare anche la batteria all'altro più 5, così gliela metto. Sì, effettivamente era scarica, ecco, era completamente scarica. Il bello di questi microfoni è che vanno bene, il brutto è che frazzano tanto di quelle batterie che la metto a basso, e facendogli la modifica magari si riuscirà a risparmiare un pochino. Va bene, Gianni, riprendi. Prega. Qua, come ti sto ascoltando io con l'autocollante esterno, è migliorato da giorno alla notte. Adesso è una radio da QSO, tranquilla, pulita, limpida, sono spariti anche i rumoraci dovuti all'amplificazione del microfono, insomma i rumori della stanza e cose varie. E quindi adesso ti sto parlando di come ti sto ascoltando io, adesso è perfetta. Ma poc'anzi mi ascoltate con la colonnina dell'apparato però. No, sempre con l'altoparlante esterno, sia prima che adesso. Ah, quindi io diciamo ho abbassato il mic della radio e va bene. Ora, adesso quanti siamo? Siamo, ma neanche tanto, allora aspettiamo un attimino. Faccio da 2 a sì, poche watt. 2, ora 5 watt. Sì. Ehi capo, ascolta Tino, prova a aumentarlo alle 14. ce l'ho già, anzi così a luna, se lo metto alle 14, eccolo qua, vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, sì, prove di modulazione, ora, ora. Ed è perfetta. Gianni, tu come la scuoti? Sì, siamo ancora cioè per quanto mi riguarda va ancora bene. Prima sempre per come ti ascolto io, prima era esagerata, cioè era fastidiosa a me. Ho capito. Vabbè, dipende anche. Vedi, sentite anche il rumore sottofondo. Sì che c'è, Tino, il rumore sottofondo. Quello così c'è, più aumenti l'amplificazione, più lo senti, no? Ma io non ho toccato niente. Ora, ora, ecco qua. Adesso magari va meglio perché ci si riesce, vedi? Sì, così va bene, è perfetta proprio. Io ti ascolto perfetto, amplificato, è perfetto. Poco fa è un po' più forte di amplificazione, in effetti qualche volta non si capiva, e adesso invece è diverso. Dammi un attimino che ti provo il più 5, aspetta che cambio la batteria. Fai. Così è Gianni. Vabbè, la questione è molto semplice. Cosa succede? Lui sta, cioè Tino giustamente sceglie di stare molto lontano dal microfono, e quindi per ottenere un certo valore di segnale, una certa radio, praticamente tende ad alzare tutti insomma l'amplificazione sia dell'apparecchio che sia quella del microfono. Sono sicuro al 1000 per 1000 che se lui praticamente tiene una distanza di 10-15 cm dal microfono, sicuramente la resa sarà completamente diversa. Lui stava provando solo, perché poco fa abbassava il microfono solo, non era mica chiede della radio. Il chiede della radio ce l'aveva sempre a manetta, capito? E magari il microfono, magari piace, oppure stava giocando per la potenza, per queste cose qua. Guarda, è fisiologico, si tratta sempre di un microfono e di un controllo di volume, cioè è proporzionale, più sali col guadagno e più aumenta il valore della distorsione. Quindi quando tu lo metti a manetta praticamente stai sì amplificando la sorgente sonora, ma stai amplificando anche la distorsione, capito? Quindi bisogna riuscire a trovare dei compromessi. Capo, sì. Capito? E cos'è? Perché sono picchi positivi e negativi io? Che è successo? Qua non rilevo nulla. Oh. Io? A me mi stanno picchi negativi. Aspetta, vediamo un po'. Con la batteria nuova. Semicidiale, ti ascolto benissimo, perfetto. Ora, sto spingendo, eh. E il tono, Tino, a quanto la usi tu? A metà oppure un po' più basso? No, il tono lo metto a 2, 1, dipende. Eia, sì, perché lo stesso, l'MB5, quando lo usavo qua, mi consigliavo di mettere tono 3. Sono 3 o 2 anche, dipende poi. E se no è fine, poi con la voce mia è ancora più fine la modulazione. O l'MB+5, comunque tante cose comprate, tutte buttate nell'armadio a marcire, l'MB+5 lo stesso, poi. È proprio un calo della passione. Bene, va bene, date mi conferma, così lascio così, dai. Sì, io raramente, non ti ho mai sentito, credo, uscire male, credo, eh. Lo so, vabbè, dipende un po' dalla timbrica, dal tipo di tipologia di radio che utilizzi. Io, per dire, con il Lincoln non esco come dovrei uscire. poi in base al radio, insomma, diciamo che mi difendo. Mi intrufolo io. Voglio fare una voglio chiederti una cosa a te. Se è fattibile, è possibile farla, giusto per avere insomma, per soddisfare una mia curiosità. Prova a mettere il mic gain praticamente alle ore 12 e tirare su praticamente il volume del tutto, di mettere praticamente a manetta il volume del microfono. Ah, ho capito, allora ore 12 è questo, al massimo del microfono è questo, guarda un po'. Prova di nuovo. Ora 1, 2, 3, prova di modulazione, questo è tutta la potenza del mic del più 5 con ore 12 mic gain dell'apparato. Ok, vabbè. Diciamo che ti ascolto così, non come prima quando hai abbassato. Cioè, questo è sempre per una mia valutazione personale. L'ascolto per me diviene difficile, proprio quasi incomprensibile in certi momenti. Adesso vabbè, ho voluto fare questo esperimento qua, giusto per avere un altro parametro. Beh, guarda un pochino adesso, abbasso magari l'amplificazione del mic, vedi un po'. Sì, adesso va meglio, cioè in pratica, sempre per quanto riguarda me personalmente, stavo per dire un'altra cosa, no, era un termine sbagliato. Secondo il mio parere non si dovrebbe andare tanto agli estremi, capito? Cioè, meglio, cosa ne so, questa è la mia opinione, meglio tirare su un po' più di gain di microfono piuttosto che il gain dell'apparecchio. Ci sei? Sì. Sì, no. Sparite tutti, cosa è successo? Marco! No, mi sono andato un attimo in bagno, scusate, mi avete chiamato. Capo. Marco, ma c'ho picchi negativi. Aspetta che guardo bene, prova a fischiare. Allora, guardando proprio dritto, sì, è una cosa, non dico impercettibile, un po' si vede, ma roba di un quarto di Santiago, me ne sto accorgendo qua, ma non lo facevo mai. Adesso ti tolgo il coso, mi tolgo. Ti accorgo una roba. No, in effetti, prestando attenzione si vede l'escursione, ma non è surriscaldato l'apparato, no? No, negativo, è bello fresco. Stazionaria non ce n'è, no? Aspetta un po'. No, stazionaria non è che si muove, sono zero. Marco, insomma, qualche giorno fa stavi smanettando con le altre radio che c'hai, adesso non mi ricordo se me l'avevi detto o se me l'hai detto, me ne sono dimenticato. Mi hai detto che c'hai degli apparati da parte, così è. Marco, ci sei ancora? Mi stanno chiamando qua un attimo, dai, rientro dopo, se posso. Ok, capa. Franco? Sì, ci sono un'altra radio adesso. Martino è andato via. Boh, è sparito. Stavo aspettando la sua risposta, boh. Ecco, io sto portando questa per vedere perché mi sta facendo quello cos'è, problemi di connessione? No, io la partita negativa stavo dando, sono cose. Tino, ci sei? Tino, ci sei? Ma tu hai mancata la corrente? È probabile, o si è dovuto spostare per altre necessità. Sì, probabile. E con questo bene mi ascolti? Sì, vabbè, chiaramente la radio non è come quella del K. No, come K no. Questo è il Lincoln, presidente Lincoln con la MC60. Già va bene, chiaramente la radio è un po' più bassa rispetto al K, però va benissimo, fra. Meno basse anche c'ha, questo sta uscendo meno basse, questo no, mi sembra che è a 8 o 9 basse. Buttaceli, se lo fanno bene, per un apparato no. per un apparato standard vanno benissimo. Questo c'è un po' di canale. Infatti come stavo dicendo a Marco, dico il mio prossimo passo, condizionale, è d'obbligo, trovare una radio stracubarato, anche veicolare, con le bande laterali. Sarebbe cosa migliore, perché se ci abbia tutto almeno, dai, AM, FM, se ci abbia un po' di bandi, no? Certo, sì, perché insomma, quella che adesso è proprio al minimo sindacale. Sì. Perfetto, ancora mi sta dando picchi negativi. Va bene, allora. E com'è a stazionare l'antenna? No, a stazionare non è a niente, non è neanche si muove là, non prima. Non ne ho mai avuto a stazionare. Fortunato, dai, bene meda. Ecco, sono già per quello picchi negativi. Adesso qui c'è a vedere che abbasso. Ho troppo contento. Allora, vediamo un po'. Se vado a 40 watt e mi dà picchi negativi. Caspita. Quindi hai sempre lo strumento collegato, giusto? Sì, sempre, in questa radio sempre. Mezzurgai, come si dice. Aspettiamo, vediamo cosa succede, se Tino rientra. Qui c'è, vedete. Allora, questo è più positivi. Sì, ma è troppo amplificata, però così. Vero? No, così è ancora nella norma, lì. Sì, così sì. Questo ce l'ho sotto la C, ce l'ho. Allora, vediamo un po'. Così. Allora, vediamo. Ok. Così come... è troppo amplificata così. Sì, si sente che hai toccato qualcosa. No, comunque è ancora ascoltabile, dai. Per te sì. Ma sempre a Tino no. Allora, metto sotto la C e questo lo porto giù a 40. Ok. Adesso dando 40 watt. Ma solo l'apparecchio o c'è anche l'aiutino? Ah, ecco, ho capito cos'era. Dallo strumento era. Allora, aspetta, Allora, la pesticazione la lascio così. Ok. Così saranno 60 watt e più, 65. Ma sei attaccato adesso con l'aiutino? No, non ho l'aiutino, sono la radio. Ma è col presidente, giusto? No, questo è il capo. Sono passato da una radio all'altra, se ne sei accorto. Ok. Perché ha detto, cazzo, 60 watt e cazzo il Lincoln mi baricrano. No, è il K, K è una 100 watt. Bene, bene, bene, bene. Già fanno comodo un po' di watt quando servono, dai. Sì, già lo credo. Cazzo, vuoi che non me ne ero accorto, ho toccato una vetta che non dovevo toccare. Ho risolto il mistero, dai. Risolto il mistero. Adesso mi sono girato e ho visto la testa in su, ho girato che non le cose in cielo. Dove andare la testa in giù. Va bene, va. Lo porto giù. Allora. Allora, portiamo a 30 watt, 30-60 modulati. Qua già arrivi bene, già arrivi bene. La sassa lì già arrivo benissimo. Guarda, parlando solo, parto da 30 a 30 a 50 addirittura, a guglia. Bene mela, bene mela. Io ne ho quasi 4, figurati. Tu ne hai quasi 4, io quando modulavo poco fa nell'altro, il Linko c'ha la potenza, che la posso aumentare e abbassare dalla manopolina, mentre l'altro, il Connex, quello lì, 2 watt e mezzo. Vabbè, dai. Quindi per adesso non mi posso lamentare. E cosa ti puoi lamentare? Arrivi bene. Il Connex a quanto te lo fanno? Con 4 watt. Sono quasi tutti che escono lì, con 4-5 watt. Aspetta che qualcuno ti ha sovramodulato. Tino, entrato sei. Buonasera, Diaboli. Sto pensando, ma il Connex a Cagliari lo fanno? E cosa ne so io se lo fanno a Cagliari? Perché? Perché lo usano spesso questa parola. È vero, ciao Matt, me l'hai ascoltato. Ti è arrivata un po' dopo, vabbè. Buonasera. Martino Muscolo non c'è? No, negativo. Ma sì, in macchina sì, con il finestrino aperto. No, sto guardando un filmato e c'era un rumore di fondo. Ma ti sembrava che eri in macchina con il finestrino aperto. No, Tino Muscolo c'era poco fa, qui è sparito. Abbassa. Troppo complicato. Non si capiva niente. È muscolo, anche. Ma il muscolo disordinato gli viene poi la distrofia. Aspetta, guarda un attimino, ora, 1, 2, 3, sono le. No, già va bene. Ecco qua, no, ho cambiato la batteria da. E quindi sta spingendo più del dovuto. Era Gabriuccio di Sorso, ti saluta, mi ha chiamato mio cugino, quindi ho detto saluta a Franco che già lo conosco, che va, viene a fare le gite insieme a me ogni tanto, lui è quello che guida però. Lo so, grazie comunque, dai, se lo risenti salutami. Ricambia. Sì, ogni tanto ci vediamo, qualche gita ci facciamo insieme. Va bene, va bene. Come va? Cosa ti dice questa radiolina? A parte il Michigan che era troppo alto. Sai, è un picco positivo troppo alto, picchi positivi. Vai da 9,15 a 9,25. Aspetta, scusa un attimo. No, va bene, per carità, cosa devi fare? No, guarda, adesso secondo me ha abbassato anche la radio, L'avevo accoppiato con 747. Guarda un attimino, ci ha cambiato un pochino. E vai da 9,15 a 9,20. Va bene, la modulazione è buona. Sì. Sì, sì, no, però sono buoni i picchi positivi, anche se andare a 25. È buono, perché è importante che non si sporchi la radio. È vero, allora questa radio l'ha fatta così, parte da 2 watt, e poi le gatte sono in picchi positivi e a un massimo di 10 watt, non di più. Però pilota bene anche ciò che è fatto. Guarda se cambia qualcosa questo passaggio, cioè. A questo, cambiato qualcosa? Allora, già in questa radio di fondo scala mi è parso leggermente che si è salito un pochino di più di qua. Sì, da 9,15 a 9,20. Adesso capire perché non si accorga questo amplificatore. È in automatico. Se non io. Ciao Daniele. Aspetta. No, nulla, qui così non va. Oh, aspetta un attimino. Guarda, vedi, guarda. Allora, così sono due fatti. Guarda, eh. Ora, ora. Così sono al massimo dei watt con picchi positivi da 10 a... Ora. A 15. Fa da 10 a 15 watt. Però con meno picchi positivi sicuramente, vero? Sì. Va bene in ogni caso la modulazione. No, vabbè, aveva detto, poi vabbè, non so se va meglio, ma detto utilizza la 2 watt che soffre di meno ma ha più picchi positivi anche. E così stiamo facendo. L'importante è che non distorga la radio quando attacchi, dai. No, già va bene. È perfetta. Gianni, riprenditela che sei in parcheggio. Ehi, adesso va bene, va benissimo. Io ti ascolto, riesco ad ascoltarti bene. Buonasera, Diabolik, Gianni da Sassari. Non è che non ti ha sentito, sei molto sicuramente sta facendo altra cosa. Ciao, chi è Gianni? Capa, sì, buonasera, ben sentito, Diabolik, Gianni da Sassari. Ciao Gianni. Ti sento, ma voi ce l'avete questo rumore di fondo, questo spernacchiare? Ma io non c'ho niente. Adesso? Io. Adesso l'oscilloscopio mi esce, ti sento. Vabbè, dillomi di nuovo. Appena faccio. Una cosa del genere? No, proprio un brusio. Così. Con tutte le creste vedo l'oscilloscopio alte. E poi passa. Diabolik, riesci a darmi un rapporto segnale? Mi dici come ti sta arrivando e come la mia radio? La radio 659. La radio non è forte, è normale. Perfetto, perfetto, grazie mille. Io sto usando un apparato della ICOM, questo baracchino dell'ICOM, un ICOM 7007, un lineareto della piccolino, quelli della Home Power, l'OM2005 automatico. Tipo il 747. Così cambia la modulazione però, vero? No, è buona, alta. Perché quando attacco mi accorgo che va oltre. Ola, caspita, fa da 50, 110, 120, ola. Sì, va benissimo. Guarda che ce l'ho anche io il bip, Ah, vero. Buonasera a tutti. Ciao Daniele, guarda che c'ho l'ultimo, cos'è quel baracchino che ho preso Tino? Viene a 5 bip. Non va bene, oggi mi stai superando quei bip, eh. Adesso prendo quella 9 toni. Ce l'ho quello lì, piccolino. C'ha 40 watt in FM, va bene. Una scatoletta di sigarette. Icca, che cosa è? Ho preso, quando l'ho preso Tino? 2 mesi fa. Ma va bene di modulazione di tutti, in AM non dà potenza, 10 watt, in FM 40. Sì, bellino. E poi con una cosa, con il frequentimetro, non è ingombrato dei soliti. E che radio è? Scusa, adesso Daniele. Non lo so. È piccolina e c'ha un sacco di funzioni, davvero tante, ne? Ovviamente a me non è che mi piace molto, preferisco quei vecchi Lafayette, Tokai, i soliti vecchi radio, un po' vintage, queste moderne. Sì, sono belle da vedere, così usare ogni tanto. Anche a me piacciono quelle vecchio stampo, niente di roba digitale in mezzo, tutta analogica e via. Mi devo spostare, dai. Ci sentiamo dopo che devo fare una cosuccia al bimbo, quindi devo mollare. Va bene. A dopo, ciao. Sì, ciao Tino. Gaba! Qua, io ne ho una della Midland, da base, ed è, non so se tu lo conosci quello, il 78574 della Midland. la base. Ma si assomiglia al Galaxy? No, è bianco, eh. Dimmi la sigla esatta. Allora, Midland modello 78 barra 574. Lo bianco. No, non ce l'ho. Però ti dico che ce l'ho così, uguale, c'è anche le stesse bimbe, no? 75/574, c'è Square Ciclari per SSB, ce l'ho uguale marcato diversamente, però non è bianco. Capo, e sono AM e SSB, e basta, FM non è A. Ma qui in banda l'ho provato un giorno, ma no, non è che vada. Bisogna allinearlo. Sicuramente. In AM c'è bene. Ed è perfetto. Ma no, proprio di quell'epoca, negli anni 80. Allora, questo è uscito dove l'ho messo? Mi sembra nel 78, del 78, Guarda. Io avevo il precedente, il 13897B mi pare, l'aveva regalato mio padre, ce l'ho ancora. Sì, è del 1978, è uscita a luglio del 78. Io avevo il Midland 13898B, anche quello AMSSB. Capo, sono belli queste radioline qua. Se volevo prendere qualcuna di quelle che ce ne sono, ma le vogliamo troppo. Ce n'è a 200 euro, poi devi trovare la fortuna a 100 euro. C'è gente che le butta, gente che le svende. Infatti. Avanti Daniele. Mi ha chiamato? Riprendi. Capo, sto parlando con mia moglie qua, mi sono un attimo distratto. Capo, no, ne sto guardando, mi è apparsa una su internet che di Midland che si assomiglia al Galaxy come stazione base. Ce ne sono parecchi che si assomigliano, ma non so vedi. Hanno la stessa struttura, ma sono di altre marche. C'è l'Alan 555 che è molto simile a Galaxy. E allora è quello che ho visto io già, perché la sigla non me la ricordo, però è molto simile al Galaxy. Sì, sono uguali, solo che hanno diversa casa, è come la Fayette, il Petruso, è uguale identico. Poi c'è chi lo fa grigio, chi lo fa nero, ce ne sono tante case lo fanno. Gaba, alla fine poi la funzione è sempre la stessa, infatti, è come la bicicletta, tu ti compri una bicicletta, la prendi ammortizzata, la prendi quella, la prendi quell'altra, dice, sempre pedalare per dirvi. È sempre quello il procedimento. Vabbè, no, magari qualcosa cambia, magari c'è chi esce meglio in modulazione, chi meno, magari si cambiano alcune cosette che fanno la differenza, bisogna provarle. Sì. C'è chi fa collezione con le cose lì. Cose vecchie. Però quando abbiamo lottato funzionano meglio quelle cose vecchie che le cose nuove. Quello è poco ma sicuro. Se sono state trattate bene, già vanno meglio le cose moderne. Meno roba digitale, tutta roba analogica. Come le macchine alla fine, Infatti, ne ho uno che l'ho tolto insieme ai portatili era. Ed è un Lintec Xavier. Come cavolo si chiama? M400, è della Intec, M4030, quello lì, quello più piccolino, fine, di tanti anni fa, e funziona, è una meraviglia. Cavolo! Va bene, riprendi, lo prefetta. periferia, identico esteticamente, molto simile al Galaxy. All'Alan 55 c'è anche il Jumbo. Il Jumbo? Cosa è? Sì, sì, è una radio uguale al Galaxy. Ma il Jumbo era anche un lineare? Anche. Anda Benemela, riprendi Walter. Walter si è spostato sicuramente. Va bene, va bene. Se stiamo a prestare apparecchi qua, ci mettiamo una a casa alla fine. Ma stai guardando il sole, non toccato. E allora, mi sembra che uno non riuscire a se ne da casa, ma e, vabbè, qualcuno si può anche comprare, non è che quando si vede, se piace, però non bisogna uscire da casa per comprarsi le radio. Cava, cava, e infatti. Così, ma venne tanto necessario, dai. Poi c'è chi piace fare la collezione, e ben venga, già sono sempre cose molto belle. Continenti ogni tanto già li vedo, questi appena i mercatini fanno le fere, gente che compra, gente che vende, già sono cose belle. Ecco, sì, vabbè, guarda, intanto sempre una ne usi, sempre una alla volta. Non ci riesci a usare le due. Va bene, ragazzi, adesso vi saluto, dai. Sono entrato a farmi due chiacchiere così dopo cena. Si vanno un po' di TV e poi me ne vado a Nana e domani nuovo giro non va a corsa. Capo, dai, chiudo anche io, chiudo, perché devo volare. Beh, vado giù. Ci sentiamo alle prossimine. Ciao. Ciao Gianni. Ciao Daniele, ciao anche Walter se era sotto. E a Pino. E quindi Gianni e fai girare. Buonanotte a tutti. Eia, dai, salutoni a tutti, Walter, Daniele, anche a te, Fra, Tino, non so. Sì, chiudiamo la baracca pure noi. E niente, ci aggiorniamo all'improvviso come oggi, dai. Buona serata e tante belle cose. Ciao a tutti, grazie, buona serata anche a voi, buon fine settimana. Have a nice day, good weekend, thank you so much. Ciao, ciao. Campanaio, a domani, ciao ciao, buonanotte a tutti.